Buonasera, spero di non disturbare il suo lavoro così importante per la pace. Amica, è Ra della Zanzara. Sono il Santo Padre. Qui alla Zanzara fanno sempre questi scherzi. No, sia guardi, Cruciani, non, sia non Parenzo. È uno scherzo questo. Onorevole Gazzi, allora... Come Gazzi? La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. In una foresta del centro Katanga, che era la tribù dei Pacaputang, l'era una tribù dei neger del Menga, grande ciula e balabiot. O vaca putanga, o vaca putanga, ma guarda che razza dei neger del Menga. Non si costruisce una società in questo modo e trovo gravissimo che un deputato si sieda all'interno del Parlamento, si dipinge la faccia di nero e quel deputato è ancora dentro l'aula del Parlamento. Cioè, hai capito? Io ho grande rispetto per il ministro Chieng, caro Parenzo, grandissimo rispetto, per carità. Lo trovo un ministro assolutamente inutile, trovo che sia lì semplicemente perché è di colore e ovviamente non ne faccio una questione di razzismo, non me ne frega niente. Me ne frego della questione pure del simbolo, come dici tu, è importante quel simbolo là? No, non è importante. Però non può chiedere l'espulsione di un parlamentare che tu non ami, che chiamerai sicuramente buffone, giullare, ma non lo decide la signora Chieng chi deve essere dentro o fuori il Parlamento, non lo decide la signora Chieng chi deve essere rappresentato oppure no, altrimenti se pensa che la Lega debba essere messa fuori legge, presenti un disegno di legge, presenti una bella propostina in Parlamento per mettere fuori legge la Lega o chiunque usi delle espressioni un po' forti, un po' pesanti, eh? No, su questo siamo d'accordo, infatti non è che può chiedere un ministro l'espulsione di un dai, questo... dice perché sta ancora in Parlamento, no, Buonanno. Buonanno ha tutto il diritto di stare in Parlamento. Fate le buffonate, lo giudicheranno gli elettori. Ma qui non siamo al Circo Padano, perché il Circo Padano va anche bene. Ma l'hai già detto, questo al Circo Padano. No, qui siamo, come ho detto ieri, sì. Ma dico di più, siamo a un'offesa razzista fatta in questo l'abbiamo capito, secondo te è un'offesa razzista? Allora senti, sì caro, mi sto parlando della Chieng, fa bene o no a dire che Buonanno deve andare fuori dal Parlamento? Basta, è archiviato, via. Sì, ma non c'è un ma non c'è un ma, perché la Lega non c'è un ma, sbaglia ha quando ha fatto una stronzata razzista, vabbè. Questo va detto sempre, va bene, no, d'accordo, no va bene. Allora Lussana, direttore della Padania, contro Mannoni, conduttore del TG3 Linea Notte, se non sbaglio, Però ecco, piantatela con queste storie, con queste provocazioni, non sarebbe un buon proponimento, no? Si appelli alla legge Mancino, investigazione all'odio razziale, ma non ci denunci, ci faccia chiudere. Si figuri, noi la Padania gli vogliamo bene, però che bisogno c'era di pubblicare quella lista degli appuntamenti della Chieng? Ma lei lo sa benissimo, non faccia la finta tonta, lo sa benissimo dove si andava a parare pubblicando quella cosa lì, no? Vabbè, oggi avete messo Zanonato, ma l'avete messo oggi dopo una settimana di polemiche. Ma lo sa che mettevamo anche il Qui Lega al governo quando la Lega era al governo? Qui Lega al governo te credo, perché è l'organo della Lega, dunque non è che può giustificare. Però devo dirti la verità, che ti fa incazzare? Basta con sta storia degli appuntamenti della Chieng, basta. Mi fa incazzare l'ipocrisia, perché lei invece avrebbe dovuto dire: certo che l'abbiamo fatta, è una campagna politica, anziché nascondersi e dire abbiamo messo qui Zanonato, domani mettiamo... C'è una campagna politica per mobilitare i leghisti contro la Chieng, sì è vero, questo qua. Tutti a criticare la Chieng, quello dovrebbe dire. Dovrebbe mettersi la faccia, non fare ipocrita di dire ma no, abbiamo messo qui Zanonato, domani mettiamo qui Bubù, poi mettiamo qui Razzi, perché non mettiamo qui Razzi ad esempio? Bello, facciamo noi qui Razzi, qui Razzi. Mettiamo la rubrica qui e voi fate una proposta oggi, tra l'altro è scritto via sms, ma non mi caghi più durante la giornata. Ti ho detto, facciamo rubrica qui Razzi, qui Cilipoti facciamo, qui Razzi, qui Cilipoti. Ah, basta, Cilipoti non si sente più, non voglio più sentire parlare, va, basta, basta. Qui Razzi, no? Allora, Formigli che dice a un deputato, giorno, ho capito, aspetta. No, no, ogni giorno dobbiamo dire dove si trova Razzi. Ma abbiamo 2 ore e mezza di tempo, perché devi cominciare a ripetere le cose 40 volte facendomi perdere tempo? Cioè, abbiamo 2 ore e mezza, un attimo. Oh, Formigli che dice a un leghista, Fedriga, non si dice nero ma di colore. Io senti, però io non ne posso più di queste, di questi perbenismi, di questi, di questo linguaggio così. Non si dice nero. Io, per carità, considero Corrado Formigli una persona bravissima, un bravissimo giornalista, ma perché non si, io dico negro invece, io dico negro. Voglio dire, non si può cioè metterci il bavaglio perché il ministro di colore. Se era di colore brava gli applaudevamo, se di colore cattiva diciamo che non va bene. Si dice nero, non di colore comunque. Nero, mi scusi se non ho queste raffinatezze verbali. Ah, è il contrario, cioè dice non si può dire di colore ma nero. Perché di colore adesso è diventata una cosa offensiva, non ho capito. No, questo non mi sembra, però. Dai, su. Dai. Una foresta del centro Katanga, che era la... Abbiamo un ospite protagonista di una polemica oggi? Persona che conosciamo da un sacco di tempo, ha scatenato una polemica e secondo me ha anche ragione, perché basta con l'ipocrisia, ha anche ragione, ve lo presento tra pochissimo, ha ragione al 100%, anche nelle parole che ha usato, al 100%. Tu non sarai d'accordo, Parenzo, come al solito, ma ti dico che ha ragione, protagonista di una polemica sui gay, ha ragione lui, poi te lo spiegherò perché, poi ti spiegherò. Oh, vogliamo risentire Toscani quando parla di leghisti subumani totali? Subumani totali. Non voglio mettere al bando la Lega, vorrei che cominciassero a ragionare come degli esseri umani, non come delle bestie. Ma perché sono dei subumani? Subumani totale. Ma guarda che razza di donna del Menga, venadito, o che la se slunga. La Padania non va bene neanche come carta da culo. Il gran capo panzi pala lunga. Come la usi sta Padania? Beh, non si può usare per pulire sicuro, perché tra l'altro è carta, neanche lì la carta è scarsa. Ah, la carta è scarsa. Sì, perché... quindi sono scarsi anche in qualità di carta. Perché tu dici che l'unico scopo potrebbe essere quello poi alla fine. Ma sì, soffiarsi il naso, pulirsi le cose, sputarci dentro, metterci dentro il pesce marcio, insomma, quelle robe lì. La mandata fini a canto. O vaca putanga, o vaca putanga, in tanche la vula sta donna. Poi spiegheremo il motivo per cui alcuni del PD non vogliono che Renzi incontri Berlusconi, una follia, sono al governo con il PDL, anzi con Forza Italia e con Berlusconi, e però non, Renzi non può incontrare Berlusconi per cambiare la legge elettorale, ma ti rendi conto? No, ma non sono al governo con Forza Italia. Erano, sono stati al governo con Forza Italia. Vabbè, certo, okay, beh, sono stati, non lo sono. Hanno fatto un patto con Berlusconi. Hanno fatto un patto con Berlusconi. Più. Sono usciti dalla maggioranza, ti informo. Hanno fatto un patto con Berlusconi un anno fa. Oggi, ma oggi che c'entra? Dicono che non possono trattare col pregiudicato. Ma ti rendi conto o no? Stupidaggine. Dai, questa su, stupidaggine. Dai. Questa è una stupidaggine. Abbiamo con noi Mario Pescante, buonasera. Buonasera a voi. Come sta, caro Pescante? Dipende, adesso sentiamo. Beh, sentiamo, ma no, come sentiamo? Beh, il fatto che lei stia bene o male non è che dipende da noi. Dipende, dipende. Però io già l'ho messo un po' a suo agio, non è che bastone e carota. Sì, sì, però sì, le devo dire la no. verità, oggi lei se n'è uscito in maniera molto forte, dicendo, parlando di terrorismo politico a proposito di Obama, perché ha mandato, lei ha detto, delle lesbiche come provocazione alla cerimonia inaugurale dei giochi che si terranno tra pochi, i giochi invernali in Russia, per la questione di Putin, eccetera, eccetera. E devo dire che su questa cosa qui lei ha ragione, perché la questione, caro Parenzo, la questione di Putin, delle leggi sugli omosessuali, non è che uno la può trattare solo alle Olimpiadi e poi andare invece a fare gli accordi con Putin, gli accordi commerciali, a stringere la mano a Putin ai vertici internazionali. Ha ragione Pescante, lasciate da parte lo sport, non rompete i coglioni quando ci sono le Olimpiadi, invece affrontate le cose con Putin quando bisogna affrontarle. Pescante. Ma sono senza parole, ma so benissimo che, conoscendo la trasmissione che seguo, devo dire, spesso, poi può capire poi le conclusioni, in effetti sono le cose che vorrei dire io, mi permetta di aggiungere, non era oggi ma era ieri quella mia uscita, ma questo vabbè, uguale, su. È stata anche un'espressione che trovo non delle più felici, quando ho detto quattro lesbiche, uno non sono quattro, sono due uomini e una donna, e forse il termine da usare era un altro, ma il problema qual è? È che dal 1980 con il contagio di Mosca, guarda caso sempre un presidente americano, Carter, decide di boicottare le Olimpiadi perché era stato invaso l'Afghanistan. L'Afghanistan è dove dopo 34 anni siamo anche noi, devo dire, non come invasori, ma lei dice siamo invasori pure noi in Afghanistan come 34 anni fa i russi, dice lei. Questo proprio no, appunto le dicevo, non vorrei che ci sia un altro equivoco qui. Nell'84 ci fu il boicottaggio di Los Angeles perché è stato restituito in Maltotto. Nel 4 anni dopo il boicottaggio che ha richiesto per Seul perché è il regime dittatoriale. Poi la Cina, Pechino perché il Tibet, nel quale si sono dimenticati tutti, perché ti amo moltissimo, era stato occupato dalla Cina. Ora un altro discorso, devo dire, condivisibile, per l'amor del cielo, ma voglio dire, fatto alle Olimpiadi, non solo perché le Olimpiadi hanno una caratteristica. Ma perché viene fatto alle Olimpiadi? Perché va di moda? E questo non che va di moda, perché è un palcoscenico con 200 paesi, 2 miliardi che ascoltano, e devo dire la verità, quello che le ha detto, non so se in maniera convinta, è esattamente il problema che poniamo anche noi. Cioè l'Olimpiadi di per sé stesso, questi diritti, la libertà, la democrazia, praticamente sono una manifestazione che è l'esaltazione di questi diritti. Non a caso l'ONU ha riconosciuto il CIO come un osservatore permanente. Andiamo al punto. Lei ha detto io ho sbagliato a parlare di lesbiche, però lei dice ho sbagliato l'espressione, scusi, non parlare di lesbiche, ho detto quattro lesbiche che in termini così, voglio dire, un po' troppo dispregiativi, disinvolti, poteva sembrare quasi offensivo. Io non ho nulla contro coloro che lottano contro l'omofobia, anzi lo sport è questo insieme. Però i gesti alle Olimpiadi non servono a niente. Ma non è che non servono, perché per l'amor del cielo sono il luogo adatto per farlo. Cioè questa è un tipo di politica, non che lo sport non sia anche politica, ma politica buona, non politica cattiva. Scusi, Pescante, se un atleta italiano dovesse fare una dichiarazione durante le Olimpiadi contro Putin, lei lo troverebbe sconveniente? Sì. Ma scusi, l'atleta italiano è libero di fare dichiarazioni contro Berlusconi, contro Putin, contro perché per l'amor del cielo sono premi. Non è che c'è nessun divieto di nessun tipo. Il problema non è parlare male di Putin, il problema, torno a ripetere, è perseguitare l'Olimpiada. Almeno 30 anni, ogni 4 anni accade qualcosa. Una volta è il Tibet, l'altra volta è la Pagana. Secondo lei sbagliano i capi di governo e di Stato che non vanno alla cerimonia inaugurale per dissenso con Putin? Non mi permetterei, perché non sono ancora pronto per il ricovero al matrimonio, al manicomio. Non mi permetto di giudicare i capi di Stato. Dico solo che, come boicotto all'Olimpiada, dovrebbe boicottare anche altre riunioni internazionali di economia dove ci sono i russi. Allora. Giusto. La sede, non le Olimpiadi. No, scusami. Dimmi che c'hai contro Pescante? No, voglio dire, con rispetto per le autorità civili, morali, politiche, per il ruolo che ha svolto nel mondo dello sport il signor l'amico Pescante, però cari amici della Zanzara, devo dire all'amico Pescante che ha detto una strozzata, ma perché? Con massimo rispetto per le autorità civili, politiche e militari, perché lui sa meglio di me, perché è un uomo, un dirigente sportivo di altissimo livello, che lo sport supera qualunque cosa, quindi che cosa c'entrano gli accordi commerciali? Lui ricorderà forse che ci fu una storica partita di ping pong nella storia, forse lo ricorderà, tra due leader di due paesi che erano, diciamo, non alla guerra ultra fredda. Cioè tu dici che è giusto durante le Olimpiadi fare presente a Putin che fa delle leggi contro i gay, giusto? Parenzo? Esatto. Vabbè, e poi Pescante la pensa in maniera diversa. Pescante no, dice... Pescante, che nasce come dirigente sportivo e oggi fa il politico. È membro del CIO, è stato politico, è membro del Comitato Olimpico Internazionale, è stato in politica, stato un politico, ma è comunque un uomo politico. Vabbè, cioè, ma che un vuol uomo dire? Pubblico, è uno... Dovrebbe sapere che lo sport, quello che lui rappresenta, supera e la forza di Obama in quella roba lì è proprio questa, invece, che al di là della questione, se Obama vuole rompere le scatole a Putin sulla questione dei gay, non deve mandare le lesbiche o gli omosessuali nella delegazione apposta per provocarlo. Rompesse con Putin. Comincio a essere certo che lei stia credendo a questa tesi. No, ma assolutamente. Ho espresso male il discorso, ma uno sport che avvicina Russia e Cina con la partita di pallanuoto di tennis tavolo, uno sport che ci sono anch'io con l'ONU, Israele, Palestina, stanno trovando eccetera, lasciatelo lavorare in pace, quello che fa in favore del dialogo, dell'abbattimento di barriere, dell'eliminazione di discriminazioni, lo fa quotidianamente, soprattutto alle Olimpiadi. Cioè non c'è bisogno di gesti di buffonate, dice lei. Che, no, ma non, no, non mi permetto di definire. Lei praticamente. Se lei legge qualche blog americano oggi sulla CBS, vedrà che ci sono dei termini di americani che criticano molto questo comportamento politico di Obama. Ecco, un attimo solo, c'è il traffico. C'è il traffico, torno subito. C'è ancora il caso. Con noi Mario Pescante, ex presidente del CONI, membro del Comitato Olimpico Internazionale, subissato da critiche da parte della comunità gay che dice delle cose terribili su di lei, caro Pescante, per quello che ha detto. Ci sta. Ma io non dico cose terribili su di loro, però questo vorrei che sia chiaro, perché sono passato per aver fatto un attacco gay, assolutamente. Dico che la sede sbagliata per certe rivendicazioni sono i giochi olimpici, questo è il discorso. Scusi un attimo. Ma a lei, scusi, che gli frega se le atlete sono lesbiche oppure se nulla. Mi piace andare con gli animali, cioè quello che fanno. No, ma infatti non gliene frega, difendere il fatto che queste atlete. Ma voglio sapere perché questo discorso deve essere fatto durante Olimpiadi, se lo faccio nelle sedi competenti, lo faccio nei capi di Stato, nei rioni in cui ci si vedono, lascio lo sport fare quel lavoro, di cui quel lavoro di realizzare quell'impegno che è insito nel. Sì, nel ho capito DNA. Benissimo. Pescante, scusi un attimo, ma secondo lei Letta dovrebbe andare a Sochi? Secondo me sì, scusi, forse non dovrei dirlo, ma secondo me sì, se poi non può per motivi legati alla vicenda politica italiana, beh, lui è stato invitato dal presidente Batti. Dunque dovrebbe andare. Anch'io quando l'ha invitato. Dovrebbe andare. C'è stato. Come dovrebbe andare? A Sochi, alla cerimonia inaugurale. No, dovrebbe andare, dico, cioè non c'è nessuna. Ma secondo me sì. Se uno stringe la mano a Putin quando fa un incontro internazionale, ma perché non dovrebbe andare alla cerimonia inaugurale a Putin delle Olimpiadi? E questa è la grande contraddizione. Allora bandite Putin dalla comunità civile, ma e scusa, poi avete diritto di parlare. Scusa, ma questa è una cosa che mi fa impazzire a me, ma questa ipocrisia. Mi fa impazzire questa ipocrisia. Io l'ascoltavo con simpatia prima, in questo momento sta diventando il mio mito. Senta, se riesco a sopravvivere a questa serata, un'altra cosa, vediamo se sopravviva. Senta, ma secondo lei perché ci sono degli atleti gay italiani che sono convocati alle Olimpiadi, secondo lei? Guardi, francamente il certificato di gay non esiste, come lei pensa. No, questo lo se lo sono, io quelli che si dichiarano... Ma dovrebbero fare coming out o è sbagliato fare coming out? Se non lo dichiarano, non lo vorranno dichiarare, ma è un problema loro, non mio. Sì, d'accordo, quello che non sia un problema suo è chiaro, però scusi Pescante, secondo lei è un po' strano che tra gli atleti italiani ci sono pochissimi coming out, eppure gli atleti non è che sono una figura a parte nel mondo, appunto, nella società, allora perché fanno bene a non fare coming out gli atleti? Aspetta, io non ho molta familiarità col tema, nel senso beh, come che, no, è stato CONI e con lo sport, no, sì, no, però parlavo del tema gay, le loro buone ragioni. Io devo dire che il mondo dello sport ha avuto il coraggio di esprimersi attraverso la voce di atleti tedeschi, di tuffatori, recentemente un calciatore, lo hanno fatto con coraggio. Sì, però ce ne sono pochi, rispetto. Ce ne sono pochi. Allora io le chiedo, secondo me ce ne sono pochi. Secondo lei nel mondo dello sport è inopportuno fare coming out? Ma guardi, una volta mi hanno rivolto questa domanda quando ero al Parlamento, sì, e sono uscito, ma francamente non ne ho la mia idea. Ci sono delle percentuali, se ci sono non c'è niente di male, se non lo sono credo che sia la stessa cosa. Ma un omosessuale ci ha mai provato con lei? Prego? È stato mai oggetto di attenzione da parte di uno? Francamente non sono un tipo, per età, per anche corporatura, vengo dalla corsa, quindi no, per la vita no, che non sono deluso per questo, devo dirle. Che c'entra la corporatura, scusi? C'entra, non ho il fisico. Beh, se viene dalla corsa, no? Anzi, al contrario, scusi, mi sembra anzi, no, avere tutte questa le... Questa disquisizione mi sta preoccupando. Però no, se Letta... Scusi, se un atleta, aspetta un secondo, perché caro Pescante, se un atleta, mi risponda secco a questa domanda, perché se un atleta gay italiano, ad esempio, no, facesse un atto di protesta alle Olimpiadi, lei si arrabbierebbe? Ma scusi, che tipo di protesta? Una protesta violenta contro... Se contro un atleta sono delle regole precise valide per tutti, non si può sul podio e nella cerimonia inaugurale, ma questa è una norma valida per tutti. Ma se un atleta, scusi, aspetta, fammi sentire. Non si può? C'è un posto riservato per le proteste, non so dove sia, immagino a 3.000 metri da qualche porta soci, per la squadra italiana non ci sono problemi di esprimersi come credono, quando credono. Però sul podio non si può? Beh, sul podio non è stato il CIO, perché guardi che di malesseri nell'umanità ce ne sono tanti. Se un'Olimpiadi con 224 paesi, ciascuno dovesse esprimere il malessere del proprio paese, della propria condizione, del proprio colore, eccetera, sarebbe una sfilata di sarebbe un inferno, dice lei. Cioè, sarebbe meglio che gli atleti tenessero le contestazioni in altre occasioni, questo è direi proprio di sì, ma che lo facciano nella zona internazionale, che lo facciano al di là già. No, dunque, se Letta decidesse di non andare per la questione gay, commetterebbe uno sbaglio enorme. Scusi, se Letta decidesse di non andare per le questioni legate ai gay, commetterebbe uno sbaglio. Non ha bisogno dei miei consigli. No, ma è un consiglio, glielo dia un consiglio. Se chiedesse il mio consiglio, ma non lo chiederà, e gli darò il mio parere. Ma francamente, per radio, non so. Beh, no, ma glielo dia. Commetterebbe un errore a non andare per la questione. Mi sembrava, no, commetterebbe un errore. Farebbe, essendo stato invitato, dovrebbe avendo andare. Un'ambizione anche il nostro paese, non io che avrò 100 anni quando ci andrà, di candidarsi per un'Olimpiadi lontano al 24, forse sarebbe utile. Ecco. Grazie, a presto. Grazie, no, a presto. Grazie, grazie. Giornale Radio. Arrivederci. Ciao, buona serata, bestie. Parenzo, o tiri fuori i coglioni o vai da Barisoni. Spazio sotto il salice, salice. Oh, finalmente un ascoltatore con il sale, con un po' di sale in zucca, eh? Un po' di sale in zucca. Comunque, lo sai che sono sempre più convinto del fatto che abbia ragione il vecchio immarcescibile pescante quando dice questi vecchio signori vecchio. Sì, vecchio, alla sua età, 75 anni, vecchio nel senso buono del termine. Allora, questi signori che dicono, che fanno i gesti eclatanti, queste chiassate sulle Olimpiadi, mandando lesbiche, omosessuali, gay, eccetera, per dire, per pulirsi la coscienza nei confronti di Putin e dire: beh, dovresti cambiare queste leggi contro la propaganda omosessuale. Se vogliono davvero incidere su Putin, rompano qualche trattato commerciale, vadano a sputarli in faccia durante i consessi internazionali, non gli stringano la mano. Invece, che cosa fanno? Mandano due atleti omosessuali che si prestano a questi giochetti ridicoli durante le Olimpiadi, così si puliscono la coscienza. Perché tu credi che interessi davvero ad Obama risolvere la questione delle leggi contro i gay in Russia? Gli interessa? Beh, secondo certo. Te non gliene può fregare di meno. Ma non è questo il punto, perché tu, che sei un appassionato e conoscitore del calcio, ad esempio, ma che c'entra? Ricorderai, stai buono, perché giovanotto? Questo qua parla da un posto in cui si sente un rimbombo pazzesco? Stai, perché io devo sopportare queste cose indicibili, no, queste cose rimbombo. Pazzesche perché devo bagno. Sopportare? Domanda, è il bagno. Ma vai, sei a casa, mettiti comodo, oppure non ti consentono di parlare alla Zanzara perché alzi la vocina, perché alzi le voci a casa. Mi divento pazzo, è andato in bagno per trasmettere, io vado al manicomio stasera. Aiutatemi voi, intervenite contro Parenzo, non ce la faccio più. Trasmette dal bagno, non perché deve cagare o deve pisciare, perché a casettina non gli consentono di parlare con la voce alta, perché magari c'è il piccolino. Mortacci di Pippo, eh. Mandami il TG3 che sennò mi incazzo. Mandami il TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi all'attacco, sulle riforme ci giochiamo la faccia, le critiche non sono per fare le scarpe al governo, surreale la polemica sul dialogo con Forza Italia, Letta non va alla direzione PD e punta a chiudere il patto di coalizione entro la prossima settimana, Grillo insiste al voto subito con il proporzionale, domani il ministro Di Girolamo in aula, sono stanca ma serena, anche Scelta Civica però ne chiede le dimissioni, i suoi comportamenti sono imbarazzanti. Spese pazze in Piemonte, chiesto il rinvio a giudizio per Cote e altri 39 consiglieri, reato di clandestinità, i leghisti occupano l'ufficio di Grasso. Passeranno per Gioia Tauro le armi chimiche siriane destinate alla distruzione, i sindaci minacciano la chiusura del porto, il governo nessun pericolo. In Basilicata la crisi e la devastazione dell'alluvione di ottobre spingono molti agricoltori nella trappola dell'usura, al TG3 le loro storie. La grande bellezza di Sorrentino nella cinquina finale per l'Oscar al miglior film straniero, un premio che l'Italia non vince dal 1999 quando trionfò Benigni. Condannato. Renzi è tornato a fare il Renzi che mi piace, eh? Di fronte a queste ridicole critiche per il fatto che ha detto, beh, siccome bisogna fare la legge elettorale, di cui non frega nulla a nessuno in Italia, siccome bisogna fare la legge elettorale, voglio incontrare il capo di un partito che nei sondaggi è addirittura un partito che ha il 20%, il 18%, il 20%. Apriti cielo, devi incontrare il condannato. Ah, scusa, ma se Forza Italia è un partito che come punto di riferimento, come leader assoluto, ha uno che è stato condannato in via definitiva, o lo consideri un partito con cui non si parla, cioè fuori da tutto, banditi, ladri, criminali, oppure se ci hai fatto un governo, Partito Democratico, comunque in Parlamento ci tratti, saluti le persone, no? Cioè non è che li consideri dei criminali. Questo banditi è giusto. Allora ci vai a trattare per la legge elettorale. E incontri chi? Invece di incontrare di nascosto Verdini o altri, Renzi vuole incontrare il capo Berlusconi. Qual è il problema? Dov'è il problema, Renzi? No, fammi questo è giusto. Dai, su, fammi sentire giusto. Renzi. Suona davvero stravagante che venga oggi la polemica rispetto al pregiudicato, così viene stato chiamato da Dattore, Silvio Berlusconi, quando con il Decuius stavamo discutendo e stavamo al governo insieme. Non ho visto ministri dimettersi il giorno della sentenza su Berlusconi. Li ho visti dimettersi per un chi, ma non per la sentenza di Berlusconi. Una foglia che cade, una faccia che vede, una notte che ha sentito abbaiare il suo cane. Oh, chi è che se n'è uscito dicendo che... dicendo, avete sentito Renzi? No, siamo stati al governo col pregiudicato Berlusconi, di che parliamo? Dai, Casson non si sente niente, mi sembra, no? Si sente Casson o no? L'ex magistrato Partito Democratico, senatore, che dice errore politico parlare con Berlusconi pregiudicato. Vabbè, Casson è stato sempre uno di quelli contrari anche al governo della Larghentese, per cui diciamo da un certo punto di vista è comprensibile. Il governatore, no, mettiamo invece il governatore della Toscana, Rossi, quale eviterei la sede del PD, adesso c'è pure la questione della sede, no? Cioè, non bisogna incontrarlo nella sede del PD perché è un pregiudicato, dunque un pregiudicato non deve entrare nella sede del PD, è una cosa patetica. Però ad Arcore, figuriamoci, oppure a Palazzo Grazioli, no, a casa di Berlusconi, dove bisogna incontrarsi? Alla Camera, al Senato? Forse sì, vabbè. Una parte del suo partito, del Partito Democratico, ha attaccato Renzi chiedendogli di non incontrare il pregiudicato Berlusconi, soprattutto non nella sede del partito. Lei è d'accordo? Ma la sede del partito la eviterei, un posto neutro può andarci. Io ho avuto un incontro con Renzi sabato, mi sono permesso di dare un consiglio, insomma stia attento, ecco. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito, ma non mi mordere il dito, la voglia ce l'ho, e non mi mordere il dito. Oh, cosa è successo oggi alla Camera? Poi sentiamo un po' di gente. È successo che quelli dei 5 Stelle hanno fatto una chiassata, solito, una chiassata sulla Carfagna torni a fare la velina. Cioè, non dibatti, la solita cosa, la Carfagna torni a fare la velina. Vabbè, sono contenti così, la Carfagna torni a fare la velina. E quello allora torni a fare il comico, oppure quelli tornino a trovare i microchip dentro la cosa, tornino a fare i... Che vuol dire? Cioè, perché la velina, che c'è di male a fare la velina? C'è qualcosa... E non mi mordere il dito. E ricordo che proprio su un ordine del giorno relativo ad un ampliamento di una cosa fatta dallo stesso ministro, una cosa positiva, cioè bloccare per 2 anni l'import di rifiuti in Campania, la deputata Salernitana Carfagna sbandò sulla sedia dopo che io la nominai, perché non sapeva nemmeno cosa stava votando. Allora, certe persone forse è meglio che tornano a fare le veline e le sciogherre al posto di distruggere la Campania e la salute dei cittadini. Vergogna! Poi c'è un altro che si chiama Sorial, sempre dei 5 Stelle, che dice: Bianconi, uno del PDL, ha detto a Ruocco, alla senatrice Ruocco, rotta in culo. Rotta in culo. Immagino sia Bianconi. Questa è una rotta in culo. Questa è una rotta in culo. Bianconi non, ogni volta che lo avvicino mi prende e poi dice: dov'è quel coglione, per riferimento a te, a male parole sempre. Ma io guarda che sono orgoglioso di essere chiamato coglione da Bianconi, Ah, sei solo? E dov'è quel coglione? Ma io sono orgoglioso di essere chiamato coglione da Bianconi. Tolga chi, come in questo caso, come nel caso di deputato Bianconi, Sorial, mi lasci conclude il suo richiamo al regolamento, però deve si è riferito concludere alla deputata Carla Ruocco, che campana sa e ha visto morire le persone in campagna, l'onorevole Bianconi si è riferito a lei dicendole rotta in culo. Se questo viene accettato da questa presidenza, se questo è un richiamo al regolamento, io non so più dove siamo. E non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito, e non mi mangiare, insomma, l'ho sentito. Bene, bene, bene, bene. Giovanni da Genova. Bene, bene. Era tanto che non bene, dicevi. Bene, bene, bene, bene. Dopo tutte le parolacce, le cose, le invettive. Bene, dimmi, bene, dimmi. Bene, ma bene. Quale parolaccia? Ho detto una parolaccia, manco una. No, sì, 4, 5. Giovanni. Sì. Vai, Giovanni. Buonasera. Su. Buonasera. Buonasera. Volevo parlare a proposito della questione degli americani e dei giochi olimpici. Niente, io volevo dire che... al contrario di come la pensa lei, Cruciani, secondo me è un'operazione molto intelligente. Guardi, bravo. Una cosa spettacolare, guarda. Bravo, a voi bravo. Piacciono queste cose qua, queste chiassate, i gay, no, che vanno, voi... i gay che vanno a Sochi, no, e magari fanno qualche cosa eclatante contro Putin. Poi io le dico una cosa in più, guardi, a me le leggi di Putin mi fanno schifo. Le leggi che poi sono le leggi contro la propaganda omosessuale mi fanno schifo. Qui siamo fieramente a favore dell'unione omosessuale, anche del matrimonio e pure dell'adozione, almeno io, Parenzo, no. Però il problema è un altro. No, la Russia, no, no, le adozioni. La Russia ha tutto il diritto di fare le leggi che vuole. Perché non è che ha fatto una legge, ce l'aveva prima, di mandare in prigione gli omosessuali. Quella era una vergogna, ovviamente. Però dice che fare propaganda sull'omosessualità lo considera un reato. Peraltro ci sono delle pene molto lievi. Sì, è agghiacciante, ma non è che sia... cioè, intendiamoci, è una porcheria, mi fa schifo. Dopodiché la Russia non è che può essere bandita perché fa una legge di questo tipo. È una follia. Il problema è questo... non si può, come dite voi, attaccare la Russia in altre sedi su queste cose. Ma come no? Certo! Non parlare a Putin negli incontri internazionali e cose del genere. Purtroppo, per fortuna, Obama parla con gente che fa cose molto peggiori, credo, di Putin. E nella stessa Russia ci sono problemi molto peggiori di quelli. Vabbè, allora... La Russia è uno stato. Perché mafioso. Fa bene a mandare i gay e le lesbiche alle Olimpiadi? Perché quello invece è un modo intelligente. Modo direi, intelligente, sì. Di far fare un enorme. È una chiassata che dura due giorni. Una chiassata che dura due giorni e non risolve niente. Sì, ma è un modo di far parlare. Ma se ne parla ogni giorno, dai, su, ma se ne parla ogni giorno e Putin se ne fotte, borsa. Pasquale da Imbassago, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro? Understand? Parola d'uma di la te, vista i cifre e se non dormire. Zanza. Sta entrando in un tunnel, pronto? Noi la sentiamo. Ci sente? No. Basta un culo. Ah, gradina. Sai, news. Voleva sapere perché. Ci sente? No, non ci sentiva più il signor Servillo numero uno assoluto. Io esalto il vaffanculo di Servillo. Assolutamente. Ma non contro la giornalista, per carità. Poi Servillo sbaglia perché non vuole le critiche, è insopportabile per questo. Però sul vaffanculo è numero uno, perché sbaglia a pigiare il tasto e si esprime come ci esprimiamo tutti noi quando ogni tanto riceviamo domande sgradite. Sì, oppure non ci va di rispondere, abbassiamo il telefono e dice ma che cazzo vogliono questi qua, vaffanculo. Quante volte a me è successo, anche di fronte a personaggi molto conosciuti, molto, no, tutti con giacca e cravatta, commi di stato, grandi giornalisti, che magari ricevono qualche telefono, che cazzo vuole questo qua, no? Cioè, oppure dicevano ciao, vabbè, ti chiamo dopo, ma che rompi coglioni. Ma quante volte è successo? Diciamo la verità, cosa ha fatto di così strano Servillo? Non ha fatto niente. Poi certo dimostra un po' di allergia nei confronti delle critiche. Ma vabbè, questo è tipico dei, no, di quelli che si sentono ormai, no, al top. Al top. Sto entrando in un tunnel, pronto? Noi la pronto? Sentiamo. La sentiamo, certo. Ci sente? No. Ci sente? Che poi è tutto così immediato, a meno che non abbiano montato qualcosa quelli di Rai News, ma non credo, che sembra quasi che, no, che questo vaffanculo sia, perché a un certo punto lui dice no, mi sente no, che poi rispondere no significa che la domanda l'hai sentita, no? E certo, poi, ma no, poi parla con il collaboratore che gli ha detto ma che è successo, ma sta cretina che mi ha fatto domande, perché c'è anche il resto, non vabbè, soltanto. Sentiamo Gianluca dalla provincia di Pisa, va. Gianluca, provincia di Pisa. Ok, allora, sono io? Sì. No, allora, no, la premessa è questa, che comunque la vostra iniziativa di tenere sempre viva la discussione sull'omosessualità è sicuramente... vi fa onore ed è condivisibile. Ma scusi, noi stasera non avremo manco parlato di omosessuali. Anche questa cosa è pazzesca. Cioè, il signor Pescante, che è stato un alto dirigente dello sport italiano, ha detto che quello fa terrorismo internazionale perché manda quattro lesbiche a Sochi alle Olimpiadi di Obama. Pescante contro Obama. Questo è successo. Mica abbiamo noi qualche responsabilità. Ma in effetti, tutto sommato, la tua valutazione forse è più corretta che non quella di Parenzo, dal mio punto di vista. Ci mancherebbe. Vabbè, ma io ti perdono, dire la verità, vi avevo telefonato perché secondo me siete pronti, ecco, siete pronti per portarci un contributo così, meno, come ti posso dire, meno convenzionale. Secondo me dovete fare una prova. Ma di che? E poi raccontarci cosa è successo, insomma. Ah, una prova di esperienza omosessuale, tu dici? Io direi, dai. Sì, ma non è che bisogna per forza, scusa, per essere a favore di certe cose, non è che bisogna per forza... Ma io non sono omosessuale, come devo fare? Sì, io non ho mai fatto un pompino in vita mia a un uomo, non è che lo devo fare per forza per dimostrare che sono vicino alla causa omosessuale. Abbi pazienza, Gianluca. Ma voglio dire, magari puoi contribuire... Tu hai avuto esperienze omosex? Hai avuto esperienze omosex? Lo sapevo che mi avresti fatto questa domanda. Se allora te la sei preparata, la mia esperienza, ad essere sincero, può essere quella di... Sei bisex? Non credo per ora. Siamo tutti dentro un po' froci, abbiamo una nostra... No, in quel senso lì non mi escludo, ci mancherebbe. No, nessuno, mai dire mai. Allora lo escludo, però insomma... Vabbè, dove andiamo? Romano da Roma, esce fuori un po' di macismo parenziano. Romano da Roma, macismo parenziano. Romano da Roma. Non è colpa mia, se no. Pronto? Dimmi. Senti, volevo fare una domanda a te personalmente. Siccome ti reputo una persona intelligente, sì. E al di là delle difese d'ufficio per questioni di ascolto, ma come lo definiresti un elemento come Bonanni? Tu personalmente, sinceramente. Come chi? Bonanno. Ah, il mitico good asshole, come dice Parenzo. Il mitico Bonanno. Lo definiresti? Un politico molto scoppiettante, un politico molto folcloristico, diciamo, no? Politico folcloristico. Sicuramente sul territorio, se ci fosse, come dire, se la potrebbe giocare, è uno di quelli che, per esempio, uno dice le preferenze, eccetera. No, io sono sicuro. Vabbè, tu sei dici che è uno. No, ti chiedo adesso, oltre, scusami, no, giusto, poi finisce la scusami, mi viene in mente questo. Oltre a questo, no? Oltre se è tinto la faccia di nero, quante ne ha fatte? Possiamo fare l'elenco delle cose che ha fatto. Oltre a questo, no? Cosa c'è? Cosa può portare, che so, un cerchio di fuoco dentro il Parlamento? Vabbè, ma questo fa parte al ministro Chienge di saltare come al circo? Potrebbe fare questo, no? Sì, però potrebbe prendere delle scimmie, portare delle scimmie. Ma questo fa parte del folklore, No? Cosa può fare perché ormai l'asticella, cosa può fare di più? Si è dipinto la faccia di nero. È dipinto la faccia di nero, voleva prendere una posizione politica discutibile, che gli italiani sono meno privilegiati rispetto ad alcune frange di stranieri che arrivano in Italia, si è dipinto la faccia di nero, ma non mi sembra un gesto razzista, francamente. È una chiassata in Parlamento, la classica chiassata parlamentare. Ma cosa può fare per finire sulle prime pagine dei giornali, peraltro, obiettivo raggiunto. Per cui, per tornare alla domanda dell'ascoltatore Romano da Roma, anche se uno se lo tira fuori se abbiamo 900 parlamentari, ci saranno inevitabilmente 200 che fanno del folklore una delle loro caratteristiche. Bonanno, se si presenta, è complicato che lì conosciamo solo il folklore, se si presenta alle elezioni sul suo territorio, cioè Barallo Sesia e dintorni, prende più voti magari di un professore universitario serio o serioso. Allora volete le preferenze, volete il territorio, volete che la gente scelga, beccate pure Bonanno. Ma non è che necessariamente quello è sinonimo di cosa ma non buona, lo so, ma è buono, giusto. Anche Mussolini poi fu eletto coi voti. Franco da Varese, mamma mia, che banalità. Ma anche Mussolini fu Franco da Varese, avanti. Sì, pronto? Dimmi, caro Franco. Sì, buonasera. Volevo esprimere un pensiero sulla svuota carceri. Sì, la legge svuota carceri. C'è Bitonci al Senato che ha occupato l'ufficio di Grasso, portatemi le mutande per non so quale cosa regolamentare. È un leghista che occupa gli uffici di Grasso, non si capisce per quale motivo. Altra chiassata, eh. Vabbè, allora Franco. Vabbè, ne fanno di cinema tanto, qual è il problema? Dimmi. Niente, no, volevo esprimere il mio parere sullo svuota carceri. Innanzitutto lo svuota carceri, non so come si chiama. Io ho 20 anni che non guardo la televisione, non seguo né giornali né niente, guardi. Ascolto la radio, ascolto varie radio e mi fa. Vabbè, allora? Niente, volevo dire che secondo me. Che ci frega noi quello che fa questo? Noi siamo in guerra perché la gente. Non è che sono d'accordo con la Lega al 100% su questo. Ma siamo in guerra con chi? Con chi siamo in guerra? Perché la gente è al limite della sopravvivenza, voglio dire. Io faccio anche il volontario, dunque, tra le altre cose. Dunque? E la gente è al limite della sopravvivenza. Per cui se uno va a prendersi i soldi in banca, piuttosto che bruciarsi vivo o impiccarsi, secondo me non è del tutto da condannare, voglio dire. No, non ho capito. Non è da condannare se uno va a bruciarsi vivo o impiccarsi. Parenzo, pensaci tu a questo Franco da Varese, ti prego. Non ne posso più. Pensaci tu. No, Franco, il fatto è che sono solo le 19:42. L'ora dell'aperitivo in genere è dalle 8:30 alle 21. Quindi o lei è in un aperitivo happy hour anticipato, ma dove ha bevuto tanto e troppo Negroni, oppure bisogna mandare l'ambulanza. Ma guardi, io non bevo assolutamente. Ma non si è di suo così. Si fa le canne e le pere, magari. No, le pene non se le fa. Le pene a piazza di dipende, gli offende alla gente, cretino. Caro Franco, stia calmo. Franco, lei secondo me ha bisogno. Aspetta, ha bisogno di un sedativo, secondo me. Sì, certo. Dice Parenzo che ha bisogno di un sedativo. Allora, te lo attribuisco tutto a te, che me frega. Cosa ha detto Parenzo? Che ha bisogno di un sedativo. Io un sedativo. Lui dice di non offendere. Io mi scaldo un attimo, scusi tanto. Ma eh? Si scaldi pure, va benissimo. Allora, qual è il problema? Ma che ne so, lei dice che ha bisogno di un sedativo. Bisogna appoggiare il bicchiere di vino sul tavolo e poi dopo ragionare. Ma io non bevo, le ho già detto che non bevo. Ubriacone, ha detto Parenzo. Dice Parenzo che lei è un ubriacone. Parenzo dice che sono ubriaco, ma va a fanculo, va a radio di merda. Che ha fatto? Perché c'è la radio però. Che ne so, l'ho fomentato. Hai insultato la radio. L'ho fomentato contro di te, Mauro da Ferrara. No, me l'hai scatenato come un toro, gli fa vedere il rosso, il tratto Mauro rosso, da no? Ferrara, dai. Beh, che ne so, Ma non attribuirmi cose che non ho detto. Ma sì, hai detto che ero ubriacone, prete, questo l'hai detto, non è che non l'hai detto. Mauro, ah no, che un ubriacone c'è. Io questo ho detto, Mauro da Ferrara. Buonasera. Su. Buonasera. Vai. Fuori dubbio. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Io volevo dirvi, perché oramai non se ne può più, che la Chienge ne cresce una spanna dal più intelligente dei leghisti, perché oramai io li ho visti e sentiti tutti. Cioè noi la Lega, quello che a noi ha trasmesso e ha dimostrato è quanto può essere marcia, mafiosa, ladra la politica. Io personalmente barrerei un barcone di africani con un barcone di leghisti da spedire nel deserto del Sahara. Cioè non ho capito, scusi signor Mauro, lei manderebbe un sacco di leghisti? No, io baserei per ogni barcone che arriva un barcone di leghisti, li spedirei in Africa. Ah, lei dice perché così. Non farebbe se ne questo può cambio più di questa gente qua. Farebbe cambio, no? Tra leghisti sì, e barconi. Certo, sì, tutto barconi che proprio arrivano, un cambio tra gli immigrati che arrivano e i leghisti. Esatto, dalla Padania, da Ferrara, in piena Padania, io volevo esprimere questo con questo mio pensiero. Vabbè, ma è Ferrara, lo sappiamo. Ma non è questa una cosa così cattiva che ha detto, in fondo. Ma come non è cattiva? Cioè, tu sei d'accordo sul fatto? No, io dico che ci dovrebbe essere un po' di fuga di cervelli, ecco. Cioè, tu faresti a cambio tra, che ne so, mille clandestini che arrivano? Io dico che di fronte alla fuga di cervelli, il problema dell'italiano, se qualche volta qualcuno, in particolare chi lavora a Radio Padania o inventa le rubriche Radio Padania, no, dai. Avesse la buona idea di andare via dall'Italia come fuga di cervelli, perché è un cervello in fuga anche quello, io non sarei tra quelli che gli dice rimani. Ecco. Ah, così, cioè tu vorresti imbarcare, qualche conduttore di Radio Padania, magari Salvini, magari la signora, come si chiama? Aurora Lussana si imbarcasse prendesse la via verso l'Africa, lei vogliamo più barconi e meno Lussana, no? Abbi il coraggio di dire quello che pensi. devi avere il coraggio di dire ma vabbè, ma tu sei sempre così, devi avere il coraggio di dire quello che pensi. Io ho detto quel che penso in modo molto chiaro, mi sembra, che di fronte alla fuga dei cervelli drammatica di fisici, matematici, ingegneri che vanno all'estero, scappano all'estero a portare il loro talento, beh, se tra questi ogni tanto anche qualche cervellino padano decidesse sì, di lasciare il nostro paese, chi? Non sarei tra quelli che li trattiene qui, diciamo. Ma chi, ho allora? Usato la cosiddetta retorica ho capito, vabbè, 30 secondi, dai. Attenzione, amico mio. Non venirmi a dire che è italiana! No, no, è! Understand? Ma io lo sai che la richiamerei questa qua? Sì, sì. Beh, va richiamata al volo, cioè, devi parlarci tu come se... Come si chiama questa? Non ricordo. Non lo so, si Bianca, chiama Bianca da Udine. Ceausescu! Understand, abbiamo capito. Abbiamo con noi Daniela Santanchè, buonasera! Buonasera a lei. Come andiamo? Che meraviglia. Tutto bene, grazie. Parenzo, questo oggi è scoppiettante, glielo dico subito. No, voglio dire questo subito in apertura. Intanto tanti auguri di buon anno, cara Danielina. E grazie, eri stupenda in quelle foto del Corriere.it. Ma quando? Che foto? In cui stai zitto, in cui, omuncolo, in cui abbracciata al signor Sallusti, sferzavi la neve nella tempesta di St. Moritz. Meraviglioso. Ma quale St. Moritz? Era St. Moritz. Io non vado all'estero, io sono italiana. Ma è a Courmayeur. St. Moritz, lei parla con gli altri. Mamma parla mia. Con Courmayeur. Quelli che portano bellissimo i soldi all'estero. Letta che va a fare le vacanze da un'altra parte. Vabbè, Letta, io sono andata. Italiana e i miei soldi li do al paese. Vabbè, questo però. Quindi St. Moritz. Non è che non si può andare all'estero adesso. Ci vado Benedetti a St. Moritz, io vado a Courmayeur, da lei, in Val d'Aosta, sul Monte Bianco. Scusa, perché cos'è un criminale? Ma Parenzo non è mai preparato. Ma non sa nemmeno dove vai in vacanza, e poi una vita che si sa. Le vacanze si lasciano qua, dobbiamo fare. Vabbè, adesso non è che non si può, andare a pure Berlusconi va all'estero spessissimo. A me non mi interessa dove vanno gli altri. Io dico da italiana, in un momento dove si licenziano camerieri, si chiudono negozi, si chiudono albergo, si consentite la mia libertà da italiana di fare le vacanze, io voglio dare i soldi all'Italia e quindi a St. Moritz ci va qualcun altro. D'Alema io vado a Courmayeur, che poi anche lì sull'italianità di Courmayeur bisognerebbe avviare una discussione, però comunque vabbè, è in Italia, formalmente è in Italia. Abbracciata a quest'uomo, va bene. Ti sono piaciute queste foto? Lì si capiva l'amore. Bisogno, pensi Parenzo, ma lei ce l'ha qualcuno che l'abbraccia? Purtroppo sì, nel senso che. Ma pensi all'amore, che è la forza più straordinaria della vita. Ma è innamoratissimo, Parenzo. È innamoratissimo. È innamoratissimo. Come si attaccava? Ma scusa, perché io voglio dire una cosa, Daniela Santanchè, perché ogni volta tu parli delle cose di Sallusti e non possiamo parlare anche delle due cose? Perché nessuno è interessato a... Ma non è vero, chi te l'ha detto? Ma non credo, quando la tua privacy, Parenzo, tu hai la solita doppia morale. Cioè, degli altri si può parlare, chiedere a Daniela Santanchè ma come vanno gli amori e le cose di Sallusti. Invece quando si parla di te, che comunque sei un personaggio pubblico, certo non conosciuto come la Santanchè, ma comunque è conosciuto. Però scusi, vi posso dire una cosa? Sì. Che se Parenzo fosse in Francia avrebbe dei periodi di magra, perché i francesi hanno dato una dimostrazione straordinaria di orgoglio di appartenenza. Perché guarda quello che ha fatto Hollande. Che ha fatto? No, l'altro giorno, sì, il casco, le cose e quant'altro. Cosa che non entro nel merito, perché a me di cosa fa un Presidente della Repubblica mi interessa che faccia e risolva i problemi del suo paese. Sì. I francesi non hanno quella pruderie che Parenzo invece rappresenta la stragrande, sempre mettersi nella vita degli altri, perché i francesi hanno detto ma chi se ne frega, mica tanto. Lei insomma rispetto a noi ci ha dato una lezione meravigliosa, vabbè, ma lì hanno beccato le foto eccetera, adesso ci saranno anche altre foto rivelazioni, anzi al contrario Hollande si lamenta del fatto che la privacy è stata rivelata. Hollande ha fatto una conferenza stampa con 600 giornalisti e quando un giornalista, che non mi ricordo di quale giornale, le ha chiesto qualcosa, lui ha detto scusi, la mia vita privata non è in questa stanza. Vabbè, ha fatto malissimo secondo me. No, ha fatto molto. Ma cos'è sta roba tutta in piazza? Ma ho capito, ma è lui che si è fatto fotografare, mica io. Ma il presidente sarà libero lui di fare quello che vuole, no? Ma no, no, no, il presidente. E deve rispondere a chi? A Parenzo. Il presidente francese no, non scusi. È libero affatto, perché se va in motorino a trovare l'amante o una presunta amante, è evidente che si scatena l'inferno. La sicurezza, ci sono questioni di privacy importanti, ma che riguardano certo. Il presidente, questioni di figure dico, di. Ma non guardate il dito, guardate la luna. Il problema ma che differenze ci sono tra Hollande e Berlusconi? Scusi, tra Hollande e Berlusconi, che differenze? Ci sono i francesi e qua ci sono gli italiani. Cioè? Gli italiani sono più. Cioè, gli italiani sono più morbosi. No, fatemela dire così, scusami Cruciani. Aspetta un attimo, fammi rispondere. L'orgoglio dell'appartenenza, di difendere ciò che è proprio. Di la patria è solo di chi la ama. Ma anche Le Monde ha fatto sei domande a cosa, come Repubblica fece su Berlusconi. No, ma guardi, è un altro mondo. È un altro mondo. È un altro mondo. Scusami. Non per niente i francesi sono la grandeur. I francesi sono questo. I francesi. E ci hanno propinato che i loro formaggi sono i più buoni del mondo, invece? Mentre i più buoni del mondo sono gli italiani. Ci hanno propinato che hanno i vini migliori del mondo, mentre invece. Ha appena detto che ci hanno dato una lezione su questo. Sì, certo, dell'orgoglio dell'appartenenza, che quello che loro hanno te lo vendono benissimo. Senta, noi quello che abbiamo lo buttiamo nel cestino della pattumiera. Cioè, mentre abbiamo buttato Berlusconi nella pattumiera, invece Hollande loro l'hanno tenuto un po'. Ma l'hanno tenuto, non è vero. Infatti, secondo me non è vero. Come stanno bene gli italiani. Guardi, perché hanno voluto buttare Berlusconi. Che c'è, Valenzo? Guardi, Santanché, che bel pisello del capo di Stato, in questo caso di Hollande, il pisellino o pisello, non lo so io, di Hollande, è un pisello di Stato nel momento in cui Hollande è Presidente della Repubblica, come il pisellino di Berlusconi, la cosa lì di l'arnese di Berlusconi quando lui era in carica è dello Stato. Cioè le metafore di Parenzo, questo non è sbagliato però. No, sbagliato. No, guarda, Parenzo proprio non... Le metafore no, di voglio dire, il pisello di Stato è un pisello di Stato, quando tu sei Hollande. Vabbè, io stasera cucino i pisellini freschi verdi col bacon. Oh, pisellini freschi col bacon. Col bacon, molto interessante. È molto interessante, noi siamo anche vicini di casa qui, nel senso che quindi sono passate a mangiarli. No, io, lui è a Roma, io sono qua a Milano, siamo a 2 chilometri da casa sua, perché lei è sempre Corso Vercelli, in quel posto discusso dove vennero quei giovani là, e vabbè, vedremo dopo. Senta, io però le voglio chiedere una cosa. ma il signor Totti, no? Totti ha la statura del leader secondo lei? No, scusi, io mi rifiuto di rispondere a qualsiasi domanda di questo genere. Beh, perché trovo che non si può rispondere a queste domande. Perché non è io nessuno. Voglio rispondere, visto che faccio il parlamentare, mi auguro di insomma onorare il fatto di essere parlamentare. Voglio parlare dell'aumento dei pedaggi delle autostrade. Vabbè, quello adesso è un altro voglio discorso. Voglio parlare dell'IMU. Da noi si parla delle cose che decidiamo noi, però. Ho capito, e io posso anche decidere la facoltà. Ma perché non vuole parlare? Perché non mi interessa. Non ha ruoli? Io non ha ruoli? No, allora non dovrebbe. Mi interessa. Vabbè, io voglio parlare dei problemi della gente, non degli organigrammi. Ma ho capito, però è quello di cui si parla. Adesso voglio dire. Vabbè, parlate con altri. Ma perché Berlusconi non riesce a nominarlo? Paese. Perché Berlusconi non riesce a nominarlo? A me interessa che Berlusconi, e mi auguro che diventi il padre della Terza Repubblica, che padre si faccia un Repubblica. Accordo sulla legge elettorale, che si vada a votare, che si voti un nuovo Presidente della Repubblica, che finiscano le truffe per gli italiani, che votano uno e poi si trovano un altro che li governi, e chi vince governa. Se non è capace a governare va a casa, per sempre. E questo sono d'accordissimo al 100%. Dopodiché il problema però esiste. Esiste, è d'accordo addirittura Parenzo. Però io, addirittura, è una cosa ragionevole. Beh, sai, le cose ragionevoli tu non è che poi sei così aduso. Però io voglio dire una cosa. Adesso, cioè, però, perché Berlusconi non riesce a nominare Totti? Questa è una domanda che uno si pone, perché uno così potente. Non riesce a nominare chi hai detto? Totti. Lei conosce Totti Santanchè? Sì, benissimo, è un ottimo giornalista, un bravissimo giornalista. Fa dei bellissimi. Beh, ora giornali. Politico però. Bellissimo, bravissimo giornalista. Ma adesso pare che voglia entrare in politica. Io pare. Invece vorrei parlare di come mai noi non riusciamo a convincere gli italiani della truffa che c'è in atto. Mi sembra invece che dobbiamo interrogarci. Però scusi, un paio di domande ce la vuole concedere sul signor Totti? Pare, io non una, due domande, due. Voglio parlare, visto che sono le 20 di sera. Sta cucinando e i pisellini. Molta gente però sta preparando la tavola e non ha il cibo da mettere. Vabbè, d'accordo, però queste cose qui sono. Un paese che va più, sempre di più alla deriva. Vabbè. Allora, se mi consente, posso decidere di parlare dei problemi della gente. Ho capito, però. Totti non è un problema della gente. In che senso non è un problema della gente? Non è un problema della gente. Non frega niente a nessuno degli organigrammi. Non di Totti non frega niente a nessuno. Della nomina, non di Totti. Non interessa degli organigrammi dei movimenti politici. Ho capito, però è un problema quello delle nomine, o no? Tutti se ne occupano. Per me non è un problema. Ho capito, ma siccome uno. Sono abituata a lavorare nella vita, i ruoli non si prendono. Uno dei leader del suo partito, che si chiama Fitto, ha detto che la nomina di Totti sarebbe un'umiliazione. Lei è d'accordo oppure no? Io ripeto, non mi interessa entrare in questo dibattito. Non vuole rispondere. Sono abituata che perché non copiamo gli altri, che siamo avanti gli altri, in che senso che grazie a Berlusconi sono gli altri che hanno inseguito sempre Berlusconi. Non mi interessa seguire, cioè, sarebbe copiare gli altri, gli innovatori, non mi interessa. Io sono stata abituata che con Berlusconi eravamo un passo davanti a tutti e tutti seguivano. Vabbè, lei non Berlusconi. Vuole questa nomina, su. Io non no, io ho detto questo, io voglio tutto. Io sono una che sono abituata a navigare in mare aperto tutti i giorni nella mia impresa, mi confronto con quotidiani. Ma secondo lei è in grado di sfidare Renzi, per esempio, Totti, in questo momento? Non mi interessa, rispondo a tutte le domande interessano alla gente. Tranne Totti. Vabbè, adesso invece interessa alla gente, però. Ma infatti la gente secondo me è un volto televisivo. Ma cosa gli interessa alla gente? È un volto televisivo. Magari non mangia la carne e deve fare l'uovo ai propri figli, questo gli interessa. E allora andate tutti a mangiare i pisellini a casa da Tacchè. Un attimo solo che c'è la pubblicità, poi torniamo. Sulla De Girolamo si potrà rispondere qualche cosa, no? Si potrà dire qualche cosa sulla signora De Girolamo, oppure anche qui bisogna parlare della sofferenza degli italiani. Poi noi sinceramente alla Zanzara, di caro. Di chi? No, della De Girolamo si potrà parlare o no? Ah, De Girolamo chi? Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. Adesso non esageriamo, Radio Maria no. Zanzara, che l'estate mi tortura. C'è un ruolo improprio, a parte che il ruolo improprio c'è comunque per la questione del conflitto di interessi in generale, ma questo da 20 anni, da 23 anni. Il problema non è quello, perché Totti non può fare quello che. Vabbè, comunque sentiamo metà. E già che ci siamo, apriamo una parentesi. Della politica si interessano i politici, ma del giornalismo ci interessiamo anche noi. E si può essere contemporaneamente direttori dei telegiornali e essere impredicato di diventare leader, sottoleader, coordinatore di partito. E non si dice niente di tutto questo. Forse non è che i due ruoli sono precisamente equivalenti. Dirigere due telegiornali e essere un coordinatore di un partito è impossibile. Ma forse anche adesso sarebbe il caso di dare un piccolo stacco rispetto a quella responsabilità giornalistica nella quale noi ci ostiniamo a credere. Questo, lei è d'accordo con Mentana? Così? Lei è d'accordo con Mentana? Sai che io non ho ascoltato quello che ha detto Mentana, lo so. Anche Mentana, perché io credo che Mentana abbia poco da insegnare da questo punto di vista. Beh, mica si è candidato, perché? Mica si è mai candidato. Ma no, voglio dire, perché ha tanti colleghi che sono stati candidati, che hanno fatto politica, che sono entrati, che sono usciti, per cui che hanno usato la politica come le porte girevoli dell'albergo, per cui insomma. Ma non lui, non credo che c'entra? Ma non gli era ripetuto in tutti i modi. Ma io vedi, voglio stare con la gente, cucini i pisellini, te lo voglio concreti. Dire. A me proprio non mi appassiona questo dibattito. D'accordo, però lui dice che è improprio essere direttore di due telegiornali nello stesso contemporaneamente trattare, diciamo, delle posizioni politiche. Secondo me non c'è nessuna contraddizione, perché qual è il problema? Quello sta decidendo se fare politica. Io non vedo assolutamente il problema, non c'è il dibattito. Cioè, scusa Parenzo, la Gruber prima di essere candidata al Parlamento europeo. Non ci fingimi, forza, avanti. No, sentiamo. La Gruber, sentiamo, sto dicendo, sentiamo. La Gruber, lo dico con tutto il rispetto, prima. Anche Santoro, anche Sassoli. Aspetta, avanti. No, prima di essere, io non sto dicendo che hanno fatto male, io ti sto dicendo, prima di essere candidati, avranno trattato con qualcuno, non è che hanno deciso l'ultimo giorno, avranno parlato un mesetto, due mesetti con. No, ascoltami, siccome tu le cose le sai e te le dovresti ricordare. Ma non ho capito, ma che vuol dire? La Gruber si fatto. La Gruber si dimise. Ma cosa c'entra che si dimise? Che c'entra la dimissione? Avrà parlato con qualcuno quando era conduttrice del TG1 per candidarsi o no? Avrà parlato con all'epoca con il segretario del partito del PDS o con l'Ulivo? No, quello niente, che è. Loro invece sono stati arrivati allo Spirito è incredibile. Santo, gli ha citofonato il campanello da casa un secondo prima. Scusa, cioè, Mineo, direttore di Rai News 24, il, sena- senatore Mineo, direttore di Rai News 24, che io stimo tantissimo, bravissimo giornalista, signor Mineo, è stato direttore e un secondo dopo si è candidato come senatore del Partito Democratico alle ultime elezioni. Tu pensi che la cosa sia nata in mezza giornata? Ci sarà stato un mese, due mesi di chiamate, controchiamate? È la stessa cosa che sta succedendo adesso con Toti, che sta trattando. Sì, ma io non è, scusami, ma perché questione... dovrebbe avere ragione Mentana? Non ho capito per qual è il problema. No, ma Mentana ha detto un'altra cosa. Non ha detto che Mineo e Santoro. Adesso parliamo di altro. Non ha detto che quelli hanno fatto bene. Ha semplicemente fatto. Perché spostate l'argomento? No, ma che ha semplicemente detto, rispetto all'oggi. Tu, sei tu che dici la Gruber. Non c'è nessuna. Non c'è nessun ruolo improprio. Questo sembra, fa il direttore di due telegiornali. Sempre Sgarbi. E Pasolini. Ma che c'entra? E Moravia. Mi fai fare qualche domanda? Mi fai fare qualche domanda un attimo? Allora, la De Girolamo si deve dimettere secondo lei? Ma guarda, quelle, io sono contro non le intercettazioni d'istituto, che è giusto quando si deve fare azione di intelligence, ci mancherebbe altro, su casi importanti e tutto, ma adesso che siamo in un paese dove valgono anche le registrazioni fai da te, ma io sono garantista, ma trovo una roba vergognosa che uno viene a casa tua e ti registra. Però scusi, qualche giorno fa lei non aveva detto... lontana anni luce, voglio dire, dalle scelte politiche della Di Girolamo, ma trovo che siamo ormai un paese di barbari, che sia un paese veramente. Però lei ha detto qualche giorno fa che in realtà avrebbe appoggiato una mozione di sfiducia nei confronti della De Girolamo da parte. No, io non ho detto questo, avete inteso molto male. Io ho detto valuteremo. Vabbè, ho capito, ma valuteremo adesso anche quello che sta uscendo, che pare anche che sia una patacca, ma poi valuteremo non sulla questione del garantismo, non sulla questione che io sputo come degli ossicini di pollo queste intercettazioni fai da te, perché io domani sera vado a casa di Parenzo e registro tutte le cazzate che dice, magari, e voglio dire, sono una persona scorretta, ma stiamo sul gossip e non faccio dei danni, ma se ti porto magari con una certa interlocuzione, perché interessa che tu dica certe cose, ti registro e poi vado alla Procura della Repubblica, ma se io voglio quello lì in galera, però voglio dire quello lì lo voglio in galera. Ah, cosa? Pisapia le dice? In galera, perché in galera, uno Pisapia. Che fa una roba del genere è barbaro. Non il sindaco di Milano. Siamo un paese incivile. Siamo in un paese che non esiste più, ormai siamo arrivati proprio alla frutta. No, però non alla quello frutta, uno è su caffè. Queste registrazioni sarebbero ammesse per motivi di, come dire, di difesa personale, evidentemente sono state ammesse perché sono finite nei faldoni, dunque diciamo. Ma pensi che bella vergogna. Pensi che vergogna. C'è gente che gli piace andare in giro con i registratori, registrare le cose, per ma me pure. Ecco, è gente che invece a me fa schifo. Anche a me un po'. A me proprio mi fa schifo, come gli spioni, come quelli che guardano. C'è una contraddizione. Ha ragione la Santanchè, fa schifo chi gira a registrare le conversazioni. Sono d'accordo, però c'è una contraddizione quando lei dice qualche giorno fa valuteremo. No, non c'è nessuna contraddizione. Beh, come no? Non c'è nessuna contraddizione. Guarda che io la faccia ce la metto sempre e ho sempre coraggio di sostenere le mie tesi. Non c'era. Insomma, si deve dimettere o no? Siccome ci dicevano il silenzio della politica, ho detto no, non c'è nessun silenzio, io non ho nessuna paura a dichiarare che si valuterà la questione. E quindi non c'è stato nessuna contraddizione. E poi lei mi conosce, sa quanto io sono garantita. Ma deve restare al suo posto? Non posso essere garantita. Allora deve restare al suo posto? Adesso vediamo domani, no? C'è il dibattito. Vabbè, domani che vuoi che dica il Senato? Ma che cosa vuole che dica? Spiegherà, no? Diamogli, si può spiegare ma ancora sì, in questo paese, non si può spiegare niente. Se faceva, se decideva da... A parte che qui c'è un'ipocrisia, oggi su Corriere della Sera leggo il vertice in masseria per decidere le nomine con i fedelissimi, le scelte sulle ASL dell'estate del 2012. Uno può dire, è come tutti gli altri politici che decidono le nomine anche delle ASL, per me è una vergogna, però non è che gli altri non facciano uguale, fanno esattamente le stesse cose. PD, ma magari anche peggio. PD, FI, PDL. Guarda, sin quando non togliamo la politica da tutte queste vabbè, cose però. Qua. Ma è così. Va bene un corno. Dalle ASL non deve c'entrare la politica. Una nomina in vita sua. Io non ho una nomina in vita mia. Vabbè, almeno sua nipote alla regione, alla provincia di Milano. Quella... Certo, la rivendico con orgoglio. Quella non l'ha fatta. Certo, assolutamente la rivendico con orgoglio, perché qua che si parla tanto, si vuole tutti innovare, ci vogliono i giovani. E poi cos'è? Non si può mettere perché uno che ha un legame... Vabbè, ha fatto la segnalazione su sua nipote, vabbè, pazienza. No, io poi non ho fatto una nomina. Bellissima, peraltro. Presidente della provincia. Molto bella, questo è vero. Molto bella ragazza, sì, bella ragazza. Ho incontrato... Ecco, non ve la dà, quindi mettetevi. Ma no, adesso non ce la dà. Adesso nessuno gliel'ha chiesta. Nessuno gliel'ha chiesta. No, parlando con voi. Mi hanno detto che siete sempre sul sesso. Ma ho detto che è bella, abbiamo detto, l'ha messa lei sul sesso. Io. Mi hanno tannato anche questa volta. No, vi conosco. Ma chi ci conosce? Lo conosce, io sono. Ma io non ho mai, io non ho mai fatto nulla. Ma se siete due tombord, lei cos'è che non ha mai fatto? Parli lì con nei confronti di sua nipote, di sua nipote, mai provato. Donne impegnate, mi pare che anche lei abbia fatto moltissimo, Cruciani. Io donne impegnate? Mamma mia. Ma lei parla sempre. Siccome però non guarda il buco della serratura, lei guarda sempre. Guarda Farenzo come si diverte. No, voglio dire, questa volta mi ha tanato Pipino il Breve. Beh, lei adesso non ha mai tradito in vita sua. Lei non ha mai tradito in vita sua. Le donne impegnate che lei ha conquistato. Dai, su. Ne parliamo adesso, le faccio mettere una canzone così tutti capiscono bene. No, beh. Secondo me stai andando in un terreno minato. Mettiamo una bestia, facciamo lo stacco, va? Mettiamo la musica. Che no, una fermi dalla regia. Fermi dalla regia. Fermi dalla regia. Fermi. No, la regia tra le palle. Adesso mette la canzone. No. Perché non è che vengo qua nel tritacarne e lei fa il furbetto. No. Voglio vedere fermi. Se la regia le palle e adesso mette la canzone. Regia, che comando io qui. Non comando la santa adesso che. Adesso voglio vedere che canzone mette. Ma nello non comando la regia. Voglio la canzone. Ma non comando. Aspetti. Ma io non ho detto nulla. Voglio la canzone, che così chi l'ascolta capisce. Ma lo sa. Che qua il più pulito c'è la rogna. Io in confronto. Regia. Vengo da Cuneo, sono una santa. Di nome di regia. Fatto. Comando regia. Io allora la santa che. Comando io. Voglio sentire se non la regia ho mai parlato parla. Di questa vicenda, non parlerò voglio mai. Voglio sentire la regia che canzone. Ma mette. La regia per dimostrare di avere le palle voglio deve fare queste cose. Vergogna, ti escludo da tutte le conduzioni, tutte voglio i turni. Voglio vedere che se la regia le palle. Vediamo la canzone. Ti escludo da tutte e la canto io tutta. Dai ragazzi, la canto io. Sono verdi gli alberi. Oh, che regia, chi è che ha le palle così in questo paese che lo facciamo Presidente della Repubblica? Vabbè, perché fantastico, io voglio conoscere chi è che ha avuto che l'ha messa. È uno di Palermo. Perché deve diventare il Presidente della Repubblica di questo paese. È un povero. Le dia un bacio. È un povero bello, disgraziato. Mi piacciono, esiste ancora qualcuno che ha le palle. Adesso lo caccio sono via dalle conduzioni, dalla regia tecnica della proprio, Zanzara. Guardi, Cruciani, stai attento come fa con me, ma lei non è nella blacklist. Ma lei non è nella blacklist di Berlusconi, cara signora Sandra, non è nella blacklist. Come posso essere nella blacklist? Lei è nella blacklist. Ma li ho messo sotto come due ma nomi. Che ci ha messo sotto? Mi mette nella blacklist. A me mi possono mettere nelle whitelist. Ma lei è nella blacklist perché Berlusconi appena la vede in televisione dice meglio. Io sono solo è meglio nella blacklist. È meglio quella di Parenzo. È meglio la Boschi, dice Berlusconi, è molto più bella. Sicuramente più giovane, più bella. Ma io credevo che per far politica, insomma, non è che basta. Cioè, non credevo che la componente estetica fosse un requisito. Ma lei se la mangia in te. A parte che a me piace più la Santanchè della Boschi, devo dire la vita. Se dovessi scegliere adesso, non si offenda. Se dovessi scegliere. Spero che lei sceglierebbe me. Poi le con uniche quella canzone di sottofondo, no! Per me gli verrebbe benissimo. Le uniche, le uniche due donne sulla faccia della terra, Boschi e Santanchè. Con chi vai? Le uniche due donne, dica, Boschi e Santanchè. Io vado con Santanchè, lo dico è qua, vero. Lo ammetto. Santanchè e Boschi. Non so se lei ce la farebbe, però adesso, vedo adesso, che l'aspirazione è alta. Non mi sottovaluti. Allora io dico una cosa. Onorevole Santa, che dico una... guarda che è fidanzata anche la Santa. Ma non sto non facendo pare. Nulla, dai, su. Allora io dico una cosa, Ma la cosa più bella nell'amore, guardi, essere fedele. Ma perché non è vero. Il godere che ha, che cosa? Uno ha a non concedersi, che non c'è paragone con lei quello dice, che uno ha concedendosi. Ma veramente io penso è al contrario. La mia filosofia, no. Io invece penso questo. Ma io un po'. Che la mia più grande soddisfazione che nella io mia vita mi sono con concessa pochissimo. Ma non è ah, che bello. Che vuol dire che si è concessa pochissimo? L'ha data poco, dice lei? Pochissimo, proprio, ma proprio pochissimo. Cioè, con quanti uomini è stata in tutto? Forse sarò un'arrogante o presuntuosa o avrò grande autostima di me, ma a me proprio mi fa godere non darla. Ma quante volte? Gliela devo dire la verità. Con quante uomini è stata in tutto? No, se glielo dico, tanto lei non mi crederebbe. No, credo, ci credo no, solo. Non mi crederebbe ma, ma lei non mi conosce? Ma lei mi conosce, figuriamoci se non ci credo. Tre uomini? No, tre. Non mi credo. Tre. Ma guardi, pochissimi. Tre, conta quattro. Sulla punta di dita di una mano. C'è nemmeno 5, nemmeno la dita di una mano. Io mi sono molto esclusiva. Ma diciamolo, 5? Mi piace così. Pensare, guarda, io se dovessi entrare in un posto e dovessi entrare in un ristorante, sì. O in un locale, e vedere degli uomini che hanno condiviso con me la mia sì. intimità sarebbe una roba che mi fa impazzire. Perché? Non mi piacerebbe. È così bello. Come stai? Ti ricordi quando scopavamo? No, no. Stupendo. No, ma per la carità. Ma meraviglioso. Per la carità. Io dico, io faccio sempre. Io lo faccio sempre. No, è bello essere. Guardi che no. È bello essere aspirazionale nella vita. Scusi, io allora. Proprio no. Scusi, tre o quattro. Tanto è vero che il mio olimpico. Di me si potrà dire di tutto. Avrò un brutto carattere. Ma non che la dà in giro. Dirò cavolate. Così, però, io credo che non mi abbia mai sfiorato nella mia vita l'immagine. Immagino la cosa di essere uno che la dà via come il pane. Ah. Credo proprio di no. E non ho capito, alla fine sono quattro in tutto i tuoi uomini? Ma che gli frega? Ma no, scusi, lei ha detto non ci credo, invece ci voglio credere. Aspetta, ma non è adesso che mettiamo proprio in piazza tutto. Beh, ma però io vorrei dare questo messaggio. Quattro! Alle ragazze e alle donne, che molto sia molto più godimento e soddisfazione a non darla. A non darla. Cioè il consiglio alle giovani di oggi, non datela. E ricordatevi che la fedeltà è un valore straordinario. Non datela, il messaggio perché è questo. È così bello, io se devo guardare il mio uomo negli occhi e voglio, cioè, trasmettergli. Ma se uno proprio non c'ha più voglia a un certo punto, scusi, non lo sento. Ma più. No, ma che allora lì è uno è come un incapace. Beh no, incapace, uno ma c'è perché? Ma uno deve inventarsi tutti i giorni. Ma uno a un certo punto non c'ha più voglia così perché non c'è ma più passione. Ma io invece arrivo a casa stasera sono felicissima di vedere il mio fidanzato. Sì, ma d'accordo, però uno dice poi magari non ha più voglia, non ha più stimoli sessuali, succede anche ma questo. No, ma perché lì non sei capace, non c'è fantasia, non c'è inventiva, non può c'è. Essere, può essere. Perché non ci si applica. Non ci si applica. E questo è colpa anche un po' delle donne e degli uomini, perché non ci si applica. Sì, quello arriva può darsi. A casa e trova una malmente ragione. Che arriva lì e ti dice che ha mal di testa, è stanca. Io arrivo a casa con i miei bei tacchi, anzi vado su, mi metto anche se sono stanca morta che ho lavorato 12 ore al giorno, se sono spettinata mi pettino e mi tacchi. Faccio vedere il massimo della mia forma. Beh, sì, siamo al top. E capisce? Invece certo che se uno arriva, la trova una con i bigodini, con le pantofole che comincia a dire che palle questo, è andata male quello, è andato a fare quell'altro, guardi io quello si fa due palle così due palle. E invece bisogna essere divertenti, magari uno ingrassa pure la donna un po' vale anche per gli uomini però Santa assolutamente che, anche per gli uomini cruciali quando torna a casa dopo la zanzara che si mette i piedi sul tavolo si scaccola comincia a dire traffico dov'è la minestra dov'è la pasta portatemi la bistecca devo dire la birra. Che io vedo più così le parenze ecco esattamente così io Cruciani non lo vedo così e Renzi come lo vede lei da questo punto di vista? No, io non so così per niente invece. Renzi come lo vede da questo punto di vista? Non ci ho mai pensato. Non ci ho mai pensato, per carità. No, anche perché no, non ci ho mai pensato. Però lei in un dibattito lei ho pensato si più a Cruciani. Se, beh, questo è un complimento, ma in un confronto a due politico, Santanchè Boschi, lei se la mangia viva? Ma io l'ho già fatto. Ma se la mangia, Dio, ma in un confronto come no, io mangio molto poco, perché siccome a una certa età tengo il fisico e quindi mi alimento pochissimo. Adesso va di moda la Boschi, si arrende, siamo a Santanchè. A me non mi piace, però va di moda. Va bene, io guardi, l'importante della non passare mai. Non aver mai paura della concorrenza e sempre aprire. Intanto guardi, uno come i ruoli, servono le persone che non hanno voglia di lavorare, idee, cose. Ma non mi interessa, io non è che me li devono dare i ruoli, me li prendo. Vabbè, abbiamo parlato di altre cose, ma va bene così. A presto. Che bella canzone. Può baciare maledetti, il suo regista, maledetti. Per favore. Guardi che non ha vinto baci. Lei, perché scrivono su Twitter e va massacrato, eccetera. Calma, no, è che dai, il regista. Mi baci il suo regista. Dica che tra poco leggeremo regista, Presidente della Parola della Repubblica, che sarà il mio candidato. Con la lingua pure, lo devo baciare, che devo fare? No, a stampo. Ah, a stampo. Solo a stampo. Bacio che si trasferisce da casa Santanchè a signor Pietro. Va bene. A presto. Arrivederci, grazie. La zanzara è quell'odioso insetto. Io ascolto la zanzara perché ogni tanto voglio averlo duro al castello di Genova. Duro. Mi ha beccato, ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo il piede. Ma lei gira sempre intorno a me. E balli sul twist, e balli sul twist. La zanzara. Gianni D'Ancona, buonasera Gianni. Eccoci qua. Sì, buonasera, ciao Cruciani, dimmi, ciao caro, Parenzo. Dimmi caro, dimmi. Allora, io volevo fare un elogio a Massimo Troisi perché... Massimo Troisi, che c'entra adesso Massimo Troisi? Abbiamo parlato di tutt'altro, stiamo parlando di altre cose. Qual è il paragone che vuoi fare? Dimmi. Attenzione un attimo, è collegato con la reazione di Servillo, Tony Servillo. Ah, ecco, Tony Servillo, che c'entra Tony Servillo? Io volevo appunto fare un elogio a Massimo Troisi, che è stato l'unico grande veramente attore meridionale che ha conservato la modestia dei grandi. Toni Servillo ha commesso una cazzata. Secondo me dovrebbe chiedere scusa, perché la giornalista, come voi, stava facendo il suo lavoro. Quindi su questo si è montato un po' la tessolina Servillo. Poi un'altra cosa volevo dire. Sì, sì. Un'altra cosa volevo dire a Parenzo sull'uso delle canne, sul fatto di farsi le canne. Sì. Allora io parlo per cognizione di causa. Perché? Perché io ti sei drogato? Come? Ti sei drogato per una vita? Che hai fatto? No, no, non mi sono drogato per una vita. Ho avuto esperienze di canne. Di canne? Però, sì. Che succede? La che scelta succede? È libera, assolutamente. Io non la contesto. Però le scelte in questa vita comportano delle conseguenze. E allora? Per essere chiaro, se uno si fa una canna e si mette alla guida e non è più in grado, ma lo sappiamo, dai, su, non facciamola lunga, lo sappiamo, è proibito guidare quando uno ha la droga, e allora ci sono le leggi, dunque ci sono le leggi, dunque non si può favorire. Ma che vuol dire? Ma che mai lo stai? Allora l'alcol uguale, che bisogna proibire l'alcol perché qualcuno ubriaco ammazza qualcuno? Ma che dici? Abbiamo già l'alcol, abbiamo già altre... Gianni, tu che fai? L'autotrasportatore, dove sei? No, no, io non faccio l'autotrasportatore, io faccio il rappresentante e sono ad Ancona. Beh, grandi rappresentanti. Rappresentanti di che? Di sex toys? E che ne so, ma lo sceglie perché? Perché lei è razzista nei confronti di quelli che fanno i rappresentanti di vibratori. Ma tra tutte le cose che uno può rappresentare, è venuto in mente quello, sei un maniaco. Ma sei, no, mi è venuto in mente questo perché ero rimasto dal discorso di prima. Scusa Gianni, ma no, ma ha ragione la Santa di cosa sei rappresentante? Di sex toys? No, non sono di sex toys, forse perché non ho avuto la possibilità, anche perché l'avrei fatto lo stesso. Magari però guadagneresti di più. Qualcosa che ha a che fare con il mondo femminile, cioè i trucchi. I trucchi, lo vedi che poi non era andato così lontano, Non era andato lontano. Lo set è diverso dal vibratore, No, certo che è diverso, che c'entra, però sempre cose, come dire, che attengono all'estetica, no? Al piacere, certo, quello è un piacere diverso, no. Poi ci sono i sex toys, vabbè, Gianni, qual è il problema? Lei è razzista nei confronti di quelli che vendono i sex toys. Ma non ha detto questo. Maurizio da Roma, grazie Gianni. Ciao Maurizio, eccomi. Allora, 10 lode, quando tornate in televisione? Non si sa. No, ma che sei matto, sei? Ma... Se ne parla proprio? Ma non lo so, non se ne parla, non ne parlo io soprattutto, non ne parlo, io scappo da tutto, voglio scappare da tutto, anche dal mondo voglio scappare, dal mondo, tranne che da uno studio radiofonico, del resto voglio scappare da qualsiasi cosa, da tutte le responsabilità possibili e immaginabili. Maurizio, allora... Dunque? Ti isoli dal mondo. No, fortunatamente, tu ci riesci, ti isoli dal mondo comunque, beato te. Finché me danno per campà. Beato te, guarda. Senti, no, vi ho chiamato perché, sento varie volte, oggi mi è andata bene. Lavoro in polizia da 32 anni, tra pochi giorni ne faccio 51, buona parte l'ho dedicata a portare i politici, diciamo. Non sono come li vedete in televisione. Lei ha fatto la scorta per tanti anni ai politici. Sì, non mi chiedere che naturalmente, perché no, tanto poi... non me lo dici, dai, forse. Però ti posso dire una cosa, io ai politici ho sempre detto una cosa, anche ultimamente. La politica secondo me è un barattolo di Nutella. Un barattolo di Nutella. Chi ci mette la mano? Sì. Le regioni adesso parlano negli ultimi anni, no? Quindi però tutti quelli che stanno nelle varie regioni d'Italia, Roma, sì, Lazio, tutto quello, sono bravi a parlare. Però poi guarda caso non fanno mai nulla di quello che dicono. Non hanno, secondo me, hanno uno scollamento. Io te lo posso dire, quando li portavo in giro, loro hanno uno scollamento completo con la realtà. Beh, ma questo è evidente. Però purtroppo stanno lì. In Sicilia, caro Maurizio, come risulta oggi da un articolo, credo, del Corriere della Sera. Anche lì. Sì, sei stato anche. Ma dove sei stato? Scusa, per chi l'hai fatto questo? No, ho portato un politico in vacanza lì. Allora, a un certo punto lo Stato decide di fare dei tagli per quello che riguarda gli emolumenti dei consiglieri regionali, no? E questi furbacchioni cosa hanno fatto? Mentre lo Stato taglia, loro si aumentano di nuovo lo stipendio con 1160 euro in più ai capigruppo, perché poi tutto è ribaltabile in Italia. Quando tagli da una parte, poi c'è sempre un organo che rimette dall'altra. Dai, su. Il problema è che gli italiani sono drogati del nulla. sono drogati di Facebook, di Twitter. Se tu fai caso quando stai per strada che esci dallo studio, ti posso garantire che camminano chattando quei telefonini. L'importante è essere drogati. Il sistema ti droga di un qualcosa. Te lo dico perché nel sistema un pochino ci sto. Ti drogano per un qualcosa. Tu devi essere completamente distaccato dalla realtà, come loro. Solo che loro sai come fanno? Hai visto il film Matrix? Matrix, sì. Sì. Allora? Io ho fatto un piccolo paragone. Noi siamo come nel film, no? E le macchine sono i politici, quindi ci usano, ci fanno vivere una realtà distorta. No, non è così, dai, a me queste cose di dietrologia non no, guarda, la grande differenza lo sai qual è? È che ma quando tu dici che sono peggio rispetto a quello che si vede in televisione i politici, che vuoi dire, Maurizio? No, sono differenti, attenzione. Un attimo, Parenzo, vai tu. Chi è questo? Bianca. Come? Bianca. Ah, ok, non Bianca Berlinguer. No. Solo per bere, questa qui è invece la matta. È la matta, quella che c'è nel mazzo di carte, la matta. Pronto? Bianca? Pronto? Matteo da Pescara. Pronto? Matteo? Sì. Sì, eccomi qua. Ci sentite? Sì. Perfetto, no niente, Cruciano, ti devo chiedere un piacere. Dimmi. Telefono solo per questo. Basta con sta cazzo di Sant'Anché in trasmissione. Ma guarda che è una vita che non veniva. Cioè è una vita che non veniva. Ma non se ne può più, non se ne può più. Beh, ho capito, Matteo, ma... E non tromba, e non mangia, e non lavora, non fa niente. Beh, cioè, mangia, no, mangiava. Per mandare... Dai, con il bacon, dai, niente di che, dai, su. Vi supplico, basta con la Sant'Anché in trasmissione. Vabbè. È odiosa, veramente, è odiosa. Vabbè, Matteo, ho capito, dunque... No, niente, guarda, era solo uno sfogo, cioè proprio la Sant'Anché io vi sento tutti i santissimi giorni, sono il vostro primo ascoltatore, basta con la Sant'Anché in trasmissione, veramente odioso, cioè meglio lo scarico del cesso di Parenzo, ecco, cioè per renderci conto, insomma, il livello della Sant'Anché. Poi tanto lì che dice, no, non trombo, 4 e porta ancora il cognome dell'ex marito, se non sbaglio. Ma che c'entra quello, scusi, non è che ha detto che non fa sesso, ha detto che l'ha data pochissimo. Volte, sì, i miei uomini si contano, ma non è che ha detto che non fa sesso, ha detto... rispettabilissimo, però è anche rispettabilissimo la mia opinione. Oh, attenzione, Renzi ha detto qualche istante fa, il governo è ai minimi di gradimento, il PD inverta la china, vabbè, insomma. Ma che ne so, Mr. Bean, fantastico. Un attimo, fermo lì. Voglio essere lapidario, lei è una persona simpatica ma è uno scacciafighe. Quando c'è della figa in trasmissione faccia parlare Cruciani, per favore. Se no attaccano, non rispondono più. Mañana yo soy stanco como una muchachita. Baila col ritmo bueno, non le importa mucho si no prendo sueno. Non le importa. Pequeña zanzarita, tormento de mi vida, comincia la comida, te mato zanzara. Zazza di merda! Io soy el tutorero, con la pantofolita, te prendo e te mato. Pronto? Pronto? Bianca? Sì, esattamente, pronto. Bianca da Udine? Sì, esatto. Ci siamo sentiti l'altro giorno. Pronto? Non ho capito, mi scusi. No, dico, ci siamo sentiti l'altro giorno a Radio 24, alla Zanzara. Bravo, caro, dimmi. Allora, dimmi. Ho parlato a lungo con alcuni amici migranti. Ah, ma sei caso, sei cosa, Cruciani, tu sei l'altro, come si chiama l'altro? No, io sono Crupenzo, cioè sono Cruciani e Parenzo insieme, Crupenzo. Sei Parenzo? Come si chiama l'altro? Caro, come ti chiami? Allora, Bianca, ti volevo Parenzo, dire questo. Parenzo, caro, tu sei Parenzo. Volevo dirti questo, cara Bianca da Udine. Bianca sì. Da Udine, tu sei italiana. Quanto sono italiani quei migranti che sono arrivati qui e che sono diventati cittadini italiani dopo 10 anni? Ascolta, allora, tu devi capire... Perché ti vuole tanto? Attenzione. A me non me ne frega niente, perché ti duole tanto? Understand? Ti duole così tanto, addirittura da richiamarmi. Ma understand? Ti duole tanto, esatto. quanto ti duole questo? Sai perché ti duole tanto? Intanto diamoci del lei, però. Attenzione, amico mio. Perché ma, amico mio, dico io, che non è un fesso. Cruciani, che non è un fesso, che io stimo all'inverosimile, ti ha annientato, ti ha mandato all'avanguardia, ti ha mandato in avanti, perché non poteva soddisfare qualche cosa, che, perché Cruciani è una persona estremamente intelligente, e con uno più potentissimo, cosa lo stai danneggiando se dici così. Non è che io ti ho richiamato, sai caro? Lo danneggi se dici che è intelligente. Ascoltami, che io nemmeno ascolto in questo momento la Zanzara, mi hai capito? Per cui per me tu sei una brava persona da considerare come uno scendiletto. Alla stessa stregua io Cruciani non considero uno scendiletto. Lo considero una persona estremamente intelligente. E tu su questo, e tu lo hai danneggiato per sempre dicendo questa cosa. Per sempre lo hai danneggiato. E chi se ne frega? Io non ho danneggiato nessuno. Stiamo al merito, io ho parlato di una povera persona. No, stiamo al Bianca, ascoltami. Bianca, ho parlato col comune di Udine. La tua casa la daremo a una famiglia rom. Inutile essere. Ma perché mi hai richiamata? Perché, perché voglio assegnare. Io non ho chiamato la Zanzara. Io adoro e stimo. Perché io voglio assegnare la tua casa a una famiglia rom. Tu hai una io famiglia rom. Io voglio assegnare la tua casa a una famiglia rom. Tu, attento amico mio. Cioè, ma a me mia, io ti considero. Per quello che nemmeno sei, io ti considero un povero essere umano, poverino. Addirittura povero essere umano. Cioè, tu mi fai pena. Tu sei una persona razzista. Mi fai tanta di quella pena. Tu sei una persona razzista. Io non sono. Razzista. Se ti fa piacere di dirlo. Hai detto delle cose terribili sul ministro Chiesa. Inutile. Creatura, hai io non detto ti ho delle cose terribili sul ministro Chieng. A me fa piacere, dillo di razzista, di quel cavolo che vuoi. A me non me ne frega niente. Io ho colpito nel segno. Ma non hai colpito nessun segno? Ma ho colpito Cruciani. Cruciani si è commosso. Non puoi sopportarlo. Ma non si è commosso, Cruciani. È intervenuto per combatterti. Cruciani è una persona intelligente. Ma lo stai uccidendo in questo modo, gli togli tutta la credibilità, qualunque. Tu sei un inutile. Gli togli credibilità se gli dici che è intelligente. Cosa ci posso fare? Non ti ho interpellato, per me non esisti, sei una povera creatura. Come si raccoglie un povero essere che chiede l'elemosina? Tu sei questo. Ammazza la Zanzara, schiaffa già di la chiappa e la chiappa nera ti fa. Zanzara, vedrà che non ti punge per tutta la sera, ma non ti fermare, non ti arrendere, che se ti fermi lei ti viene a pungere. Stefano da Venezia, buonasera Stefano. Ciao ragazzi. Allora? Allora, c'è l'ultima di Cota, l'avete sentita? Qual è l'ultima di Cota? Rinviata a giudizio? Ha detto che per le mutande ci pensa lui a Bitonci stasera, eh? Ah, beh, siamo al top, eh? Ci pensa lui con la mutanda nera, no? Alla grande, alla grande. Ascoltate una cosa, ma la Santa Chiesa doveva parlare dei problemi degli italiani, no? Ha detto alle donne di non darla, ma sei ma siete pazzi voi? Pure quello è vero, alla fine doveva parlare dei problemi degli italiani, però l'abbiamo trascinata noi su quella roba lì. Ha invitato tutte le donne a non darla, vi rendete conto? Sì, è vero. E voi non avete detto nulla? Ma come non abbiamo detto nulla? Siamo, eravamo lì, pendevamo dalle sue labbra, io dicevo no, ma è sbagliato, non bisogna fare così, bisogna sempre darla. Comunque, io volevo parlare di Obama che vuole mandare lì delle atlete omosessuali. Eh? Obama non vuole parlare lì, non vuole portare a Sochi delle atlete per protestare contro Putin, no? Cosa che ha detto? Vuole mandare lesbiche omosessuali, sì, ha già mandato, sì. Beh, vabbè, comunque è un'ipocrisia immonda. No, è una buffonata, perché? Non è un'ipocrisia, è una buffonata e un'ipocrisia pure, è pure sì, un'ipocrisia. Ma comunque io mi sono informato, è vero che comunque quando se si mangia la carne... Sì... cioè la carne, ci sono dei vaccini che sì, praticamente per coltivare gli animali, per allevare gli animali, vengono dati dei vaccini con degli ormoni. Ecco l'altra stronzata, su. Dunque? No, infatti, allora, cioè, infatti i vegetariani, c'è cioè l'1,5% che è omosessuale dei vegetariani. Sì. La maggior parte degli omosessuali è carnivora, ci sì, sarà un motivo, no? Ma non è vero, mamma mia, che buffonate. No, sul serio. Dai, sto Stefano, su, dai, dai, dai, dai. Andrea Vibre. Andrea Vibre. Beh, caro Parenzo, ti ho invitato per la prima volta alla Zanzara. Io so che è un tuo, uno dei tuoi personaggi di riferimento, uno dei tuoi preferiti in assoluto sul panorama di YouTube, sul panorama della rete. Noi l'abbiamo chiamato perché si vuole candidare alle elezioni europee, vabbè, si vogliono candidare tutte le elezioni in realtà. Però trattasi del noto intellettuale, noto statista Andrea Di Pre. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Come andiamo? Che c'ha la voce così abbattuta, così abbacchiata? Che è successo? No, sto bene, buonasera a voi. Caro Di Pre, critico d'arte, avvocato, candidato alle elezioni europee, per chi? Per se stesso, per chi? Lei chiede candidatura, chiede ospitalità da qualche parte, quanti voti ha? Quanti voti ha Di Pre? Ma allora, mi fa piacere sì, che ci diamo del tu, va bene? Sì, diamoci del tu, però non fare il comizio, Andrea, su, dai, forza. No, mi fa piacere che ricordi che sono un avvocato, perché di fatto... Ma non t'hanno cacciato? Mi hanno cancellato dall'albo. Mi hanno cancellato, allora radiato, perché l'Ordine di Trento mi ha cancellato, perché evidentemente. Ma quante ore hai dormito? Scusa Andrea, ti sento molto così, con la voce molto stanca. Hai fatto le ore piccole come al solito? Sono un po' stanco. Le solite transessuali, le solite pornostar, la solita roba, no? No, comunque sono contento che è vero, ho fatto questo appello per trovare. Alle liste. Per te va bene qualsiasi cosa, giusto? Ti piace qualsiasi cosa? Ma certo, certo, per me la politica è una grande mangiatoia suina. Sì. E quindi è giusto che ogni tanto cambi il maiale che mangia. Sì. E quindi, ma quanti voti porti tu, Di Pre, con le tue apparizioni su YouTube come critico d'arte? Io penso di avere una marea di preferenze provenienti dal mondo dei giovanissimi. Quanti, scusa? Dai 18 anni ai 23, penso che il partito che mi ospita sì, possa prendere in un collegio europeo sui 500.000 voti. 500.000 voti, Di Pre, su, dai, perché vai ogni tanto con le mignotte su internet, vai con le pornostar. Sono opere d'arte mobile. Ma quale opere d'arte mobile? Ma che parla, Di Pre? Ma di che stiamo parlando, Di Pre, dai, su. Ma scusa, dimmi la verità, ma si rivolgono a te anche, ne so, uomini politici per cercare compagnia con le persone con cui ti fai riprendere? Eh? No, ma guarda, a me la politica non interessa, cioè, o meglio, mi interessa nella misura in cui fossi eletto. Cioè, se sono eletto me ne occupo. E che vuoi fare, per esempio? Se non sono eletto non me ne frega un cazzo di politica, perché la politica sì, è una perdita di tempo, cioè diciamo, le elezioni europee sono per me l'ultima spiaggia. L'ultima spiaggia, proprio in assoluto, l'ultima spiaggia, perché te ritroviamo a Camposanto adesso. Perché ci sono ancora le preferenze, mentre alle elezioni politiche, sì, a parte il Porcellum, lo statista, ma sicuramente partoriranno una legge elettorale, sì, dove non c'è la preferenza, purtroppo. Ma che ne sai, boh. Parenzo, tu conosci Di Pre? Scusi, certo che lo conosco, ma è ovvio che lo conosco, ma conosco le sue gesta, perché so che i suoi video, no, è questo il punto, non è che siccome lui ha i video in cui fa queste cose mobili, in verità va con queste prostitute, queste signorine, e lui dice che sono opere mobili. Una volta ha fatto una battaglia meravigliosa con Benito Oliva, con Achille Bonito Oliva. Non facciamo pubblicità a quella nullità. Siamo Bonito Oliva, scusa Andrea, scusa un attimo, io la cosa che vuoi di più, se dovessi fare, non succederà mai per fortuna nostra e dell'umanità, del mondo, però se tu entrassi in Parlamento, quale sarebbe la prima cosa che faresti? La prima? Allora, liberalizzazione totale di ogni forma di stupefacente. Ogni forma di stupefacente libera, nemmeno legalizzata, cioè liberalizzata, libera eroina. Mercato libero totale. Totale, pure l'eroina. anzi, estremizzazione. Vabbè, estremizzazione della diffusione della prostituzione, cioè, è giusto che se una vuole prostituirsi lo faccia per strada o nella casa, dove vuole. Liberalizzazione totale della prostituzione, sì, droga e prostitute libere. Terzo poi, punto fondamentale, qual è? Incentivare il non obbligo al lavoro. Cioè, scusa, com'è la storia? Questo. Se uno vuole lavorare è giusto che lavori, vada a lavorare, ma se uno non vuole lavorare, sì, è giusto che lo Stato di appartenenza, visto che sì, si parla di un consesso europeo, sì, e stabilisca un minimo per incentivare anche. Cioè, non ho capito, se uno non vuole, se uno non vuole lavorare, bisogna pagarlo. Allora, già la vita è una valle di lacrime, c'è un cimitero costante e sì, passa in fretta. È giusto che l'uomo, un po' come in un'utopia, la Thomas More, deve cercare la sua felicità. E quindi io dico, se uno ha capito che lavorare non è un bene, ma è una cosa comunque pesante, sì, cioè una cosa è che meglio, deve aiutare, essere pagato per non lavorare. Ecco, il politico deve fare in modo che chi non vuole lavorare o chi non ha lavoro, sì, comunque percepisca un minimo. Un minimo per poter sopravvivere. Allora, Parenzo, il programma di Pre è no, questo. È un programma che sulla carta potrebbe anche essere prostituzione molto, libera, erba e ogni droga libera, e se uno non vuole fare un cazzo nella vita deve essere pagato dallo Stato. È un programma accattivante. E in più magari mettiamo una mignotta per tutti. Mettiamo una mignotta per tutti, scusa, di Pre. Esatto, il quarto punto è quello, cioè è giusto favorire l'incontro sessuale. Ma è un maniaco questo di Pre. Scusi di Pre, ma scusami Andrea, ma la Santa che ha appena detto da noi che in realtà la donna non la deve dare in giro, ha detto che ha esaltato la virtù della fedeltà, non darla in giro, eccetera, proprio al tuo opposto. No, ma io rispetto, cioè, sono sempre scelte, io rispetto la suora come rispetto la pornostar. Però ci deve essere libertà, dici tu, libertà assoluta, vabbè. Libertà assoluta, e penso che. Però ti sento moscio la sera. Già, ti sento moscio, ti sei drogato. Comunque, ti sei drogato. Ti sei drogato o no? Lista che di ospiti. Ti sei drogato o no? Oggi. Ma ragazzi, ma non. Oggi ti sei drogato, dai. Dai, cosa sei fatta la cannetta? Spero che mi aiutiate voi che siete un osservatorio politico a trovare una lista. Vanno bene pure i nazisti? Purtroppo temo che alla fine dovrò andare con un partito estremista. Se non trovo... E che tanto che te frega a te. Ciao, ciao. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito. Vabbè. Ma non mi mordere il dito. Andrea Di Pre, una follia. Silvana da Roma. Buonasera a voi. Scusate, ma io non posso purtroppo parlare di quello di cui state parlando adesso perché non ho la radio qua, quindi non vi ho seguito. Ma non c'è problema, dimmi. Allora, io vi volevo dire che il ragazzo, signore che ha telefonato, no, signore perché aveva 51 anni, sì, poliziotto che l'ha chiamato poc'anzi, un po' qualunquista, perché diciamo, per quanto riguarda i politici, ci sono anche dei politici che sono rimasti normalissimi cittadini. E questo, insomma, ve lo posso dire anche perché ormai faccio parte anch'io di questa famigerata categoria. Io naturalmente parlo a mio nome personale, però penso che anche per i miei colleghi in linea di massima sia così. Io prendo i mezzi quasi tutti i giorni, ho una vita del tutto normale. In questo momento sto preparando la cena, vabbè, ma anche la Sant'Anchè prepara la sua cena, per cui dunque non ci sono problemi. No, volevo dire un po' di qualunquismo. E poi un'altra cosa, volevo dire riguardo a quello che ha detto la signora Santarchè, che la gente è interessata e come a questo tipo di vicende. Poi si può condividere o non condividere, ma non sa. Quali vicende? Quali vicende, dice lei? Qualsiasi vicenda ma che riguardi direzioni politiche. Ma certo, vabbè, ma non voleva parlare perché è un argomento delicato quello di Toti, non voleva parlare perché è una cosa delicata. Ma assolutamente, ma poi io del resto sono d'accordo con lei, l'hanno fatto tante altre persone prima di lui, per cui insomma non è così né grave in sé, né tantomeno si può dire che sia un primo comportamento del genere che vediamo, no? Sì, certo, no, ma non c'è dubbio. Senta, signora, ma lei fa politica attivamente? Sì, io faccio politica attivamente, sono stata eletta alla Regione Lazio. Ma con che partito? col Movimento 5 Stelle. Oh, a proposito, Parenzo, c'è questo onorevole Cera che è un personaggio eccezionale, ogni tanto i grillini mi ha ricordato. Onorevole Cesa. No, Cera, quello dell'UDC, quello che difende il doppio turno, no? Sì, sì. Il doppio incarico. Oggi sulla stampa, a un certo punto, perché i grillini ogni tanto lo filmano mentre dorme in aula, dice: martedì mi sono alzata alle 4 per prendere il treno a Foggia alle 8 e andare a Roma, a parte chi ha chiesto di fare il doppio incarico, ma comunque commissione, aula, riunioni, e quando arriva quell'ora lì, dopo pranzo, la panza piena, beh, un po' di stanchezza ci sta, dai. Signor Cera, ma basterebbe non avere il doppio incarico, cioè non glielo chiede nessuno, non mi dica che lo fa per il bene della nazione. Non bisogna avere il doppio incarico, se lei è sindaco di un paese nel Foggiano e deputato, semplicemente non lo deve fare. E c'è stato un periodo in cui lei ha fatto pure il consigliere regionale, come la signora Silvana, che ringrazio, ci sentiamo domani 18:30, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Attenzione, amico mio. Radio 24. Understand? La passione si sente.